si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Vengono deportati. Vengono deportati perché fanno parte di un flusso di economia, un flusso di profitti. Quando un immigrato costa 50, 60, 70 euro al giorno e sta in latitanza 2 anni in un centro, sono soldi. L'immigrato non c'entra, c'entra la gestione di questo governo, di questo Stato, che è immorale. Immorale, è questo che combatte il Movimento 5 Stelle. Buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare 18:20:30. Buonasera ad Alessio Maurizio, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. La pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, i contatti su Twitter Si può fare 24, il mio account è @ Ale Maurizi. È tornato, lo avete sentito, Beppe Grillo sul tema forte dell'immigrazione. Si smarca però dalle posizioni più dure e intransigenti della Lega, per esempio sul tema del reato di clandestinità. Inutile secondo Grillo. Il reato di clandestinità è un reato che qua è amministrativo, quasi amministrativo, nel senso che è una perdita di tempo delle forze dell'ordine, è una perdita di tempo del giudice, perché devono venire portati al commissariato, il giorno dopo devono essere portati davanti al giudice, cioè è una perdita di tempo delle nostre forze dell'ordine. Sanno benissimo che se le persone non sono identificate prima si perdono, poi il foglio di via lo dai e poi dove vanno a finire non lo sa più nessuno. E intanto è polemica dura tra il Vaticano, la Chiesa, alcuni esponenti insomma del Vaticano e diversi politici di centrodestra, la Lega in particolare, dopo che il Monsignor Galantino, segretario della CEI, ha definito dei piazzisti i politici che soffiano sul fuoco dell'immigrazione. Oggi, per dire la verità, c'è una leggera correzione di rotta. In una intervista a Famiglia Cristiana, Galantino stesso specifica anche che il governo è stato assente sulla gestione di questo fenomeno, quindi una parziale aggiunta, correzione di rotta rispetto all'attacco che era stato fatto prima nei confronti di chi strumentalizza, trascurando il modo in cui è stata gestita fin qua l'immigrazione. L'ex ministro Chienge. Ma non fa delle proposte in questo momento, è sempre in piazza, cioè io parto dal punto ben preciso, anche in Parlamento europeo, dove sono presenti e dove puntualmente non fanno delle proposte. A proposito della Lega, la polemica infinita tra la Lega Nord e l'ex ministro Cécile Kyenge. Don Pierino Mazzi invece in qualche modo cerca di rispondere alla critica che è partita dalla Lega, ma anche da, forse così, da un po' di buon senso da parte del cittadino comune, che dice: bene, sì, il Vaticano però cosa fa per i migranti se li prendano loro? Sentiamo la risposta di Don Mazzi. E ospitiamo le nostre strutture, mi pare. Io sono il primo a averli ospitati, anche questi, non solo i disperati di un certo tipo, ma anche questi. Nella mia comunità, per esempio, a Reggio Calabria siamo stati tra i primi ad ospitare. E che Salvini, forse, se avesse un linguaggio un po' più decente, più dignitoso, forse sarebbe meglio per tutti. Ecco. I nostri figli si devono divertire. La notte è un momento particolare, tenero, dolce, per cui la notte è affascinante per tutti. E non è possibile. Io sono il primo a dire che chiudere Cocoricò non risolve niente, anche perché 10 anni fa sono stato il primo a fare una discoteca, io, va bene, a Cavriana, a Mantova. Di nuovo con Beppe Grillo invece, che insomma ha fatto capire in questa intervista rilasciata ieri sera, che insomma, delle due è sicuramente più interessato ai suoi spettacoli, forse a tornare in televisione con uno spettacolo, che non a continuare a fare leader politico. Conferma quindi i passi indietro già fatti in questi ultimi mesi. Io non sono candidato, candidabile. Io vedi che ho fatto un passo indietro, sto facendo passi indietro, sto cercando di regolamentare un po', di tenere, di fare il garante un po' del movimento, no? Per far rispettare quelle 4-5 regole. 800-24-00-24, ultimo argomento per questa sera, prosegue la polemica sui numeri, numeri del lavoro, i numeri relativi al Jobs Act, veri e propri contratti, nuovi contratti di lavoro, nuovi posti soprattutto di lavoro, oppure stabilizzazioni di contratti che c'erano prima e che approfittano degli incentivi fiscali. Sallusti. Ma il Jobs Act non ha prodotto nessun nuovo posto di lavoro e questo era lo scopo del Jobs Act. Quindi, che il Jobs Act sia un fallimento non è che lo dico con gusto, anzi lo dico con una certa tristezza ed angoscia, perché tutti noi speravamo e speriamo che l'occupazione cresca, ma non crescerà attraverso il Jobs Act, questo è fuori dubbio. Che i dati dell'INPS non coincidano con i dati dell'Istat mi sembra normale. Io credo di più all'Istat onestamente che all'INPS, anche perché il presidente dell'INPS l'ha nominato Renzi, il presidente dell'Istat ancora no. In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, doccia, e che le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia. Non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti esserci nata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto bene, sto benissimo, a sapere che voi state bene insieme quando vi vedete. Amministra da 4 anni una delle città più difficili d'Italia, è di sinistra, ma non è un renziano, anzi col capo del governo e del PD è in polemica per diverse ragioni, tanto che punta a fare di Napoli un comune derenzizzato. Buonasera a Luigi De Magistris. Buonasera. Un po' come i comuni denuclearizzati. È un po' sì, l'ispirazione l'ho tratta da là, ovviamente. Non è una battuta, poi sì. Sotto a quell'immagine, a quel logo c'è un ragionamento tutto politico. Sì, lei ha scritto un lungo post su Facebook in cui appunto critica il governo, critica Renzi, antidemocratico, decisionista ma nel modo sbagliato, e alla fine dice ecco perché voglio fare di Napoli. Però uno si può tirare dietro tutta una città in una polemica politica con un capo politico? Ma è un ragionamento, noi siamo molto critici con le politiche che il Presidente del Consiglio e il Governo stanno facendo innanzitutto sui comuni, ed è qui si mette in gioco la città, quindi i tagli ai comuni, in particolare i tagli alla città di Napoli, e poi la polemica fortissima di questi giorni che ha scatenato anche una dura presa di posizione anche nostra, è sul commissariamento di un pezzo di città che è Bagnoli, che è una norma inserita nella legge cosiddetto Sblocca Italia, in cui il Presidente del Consiglio, nonostante sia un ex sindaco, ha deciso, in violazione a mio avviso di legge e costituzioni, di espropriare la città, il sindaco, il Consiglio Comunale, i cittadini, per far decidere il futuro di Napoli a un commissario adesso, da lui nominato. Adesso ne parliamo anche di questo. Sai, è difficile anche per chi non è di Napoli capire, ma soprattutto è difficile per un italiano scegliere tra 20 anni di immobilismo su Bagnoli e la paura che il commissario, come dice lei, possa essere la via poi per fare delle cose che non vanno bene. Però prima le voglio chiedere, dopo che lei ha detto questa cosa su Renzi, su Napoli derenzizzata, è stato duramente attaccato, se l'aspettava credo, un colpo di sole, è disperato, hanno detto di lei, è isolato. Cosa però rispondere? Devo rispondere su Bagnoli dei 20 anni, perché dopo. Perché ovviamente non condivido quella ragione. No, è chiaro, io mica mi aspettavo di avere ovviamente solo consenso, ho aperto in modo chiaro, netto e duro un ragionamento politico. Mi aspetterei dai critici di non limitarsi a dire è ubriaco, è un colpo di sole, ma aprire un dibattito sui temi che io ho messo nel posto, e sono temi, come dire, dove tanta gente la pensa come me, altri non la pensano come me, ecco, dove credo sia giusto, come la la politica, non è che abbiamo una monarchia in Italia, ogni tanto forse Renzi pensa di vivere una monarchia, invece è giusto che ci sia anche chi la pensa diversamente da lui. Renzi monarca è l'ultima versione del Renzi. No, nel senso, io vedo che lui è un po' insofferente, sì, quando uno dice una cosa diversa, però siamo in democrazia, ma questo sicuramente. Allora, tra poco continuiamo: Bagnoli, gli inceneritori, i trasporti, gli immigrati, tante cose con De Magistris dopo il traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. Che preferisci rimanere solo qua nella provincia denuclearizzata, a 6 chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto bene, sto benissimo, a sapere che voi state bene insieme quando vi vedete. Di nuovo in compagnia del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che vuole appunto fare di Napoli un comune derenzizzato. Andiamo però appunto per ordine, parliamo degli argomenti concreti, però cerchiamo di farci capire. Bagnoli, cosa c'è oggi a Bagnoli? Parliamo con chi non conosce Napoli. Esatto, perché giustamente lei ha detto 20 anni che cosa è stato fatto. Noi sicuramente, io amministro da 4 anni come avete ricordato, ho ereditato una situazione su Bagnoli drammatica, bonifiche non completate, sprechi di denaro pubblico, un immobilismo e un rischio di nuove speculazioni. In questi 4 anni noi abbiamo fatto delle cose importanti. Innanzitutto abbiamo fatto delibere sulla spiaggia pubblica, che quindi abbiamo detto il litorale di Bagnoli deve essere spiaggia pubblica, e soprattutto abbiamo fatto un piano che da un anno abbiamo sottoposto al Presidente del Consiglio, un piano votato dalla Giunta, Consiglio Comunale, sottoposto ai cittadini, che portò il 14 agosto di esattamente un anno fa a un protocollo firmato proprio col Presidente del Consiglio, in cui l'impegno era da parte nostra di presentare un piano, e noi in questi mesi l'abbiamo presentato, e da parte del Presidente del Consiglio, trattandosi Bagnoli di un sito di interesse nazionale, di dare i fondi per completare la bonifica. E invece, qui noi in questi 4 anni, questo ci tengo a dire, non siamo stati fermi. Qui noi siamo contro l'immobilismo e contro le speculazioni. La contestazione che facciamo a Renzi... No, però scusi, De Magistris, 4 anni per fare un piano, lei si metta nei panni di un cittadino, dopo che da 20 anni se ne parla, non è neanche un grande colpo d'acceleratore. Comunque... No, però un attimo, chiedo scusi, come parliamo della trasmissione nazionale, noi abbiamo ereditato un disastro, con inchieste della magistratura che hanno sequestrato gli atti, tutto bloccato, politiche, impossibile agire, eccetera. No, eccetera. Dico, ma è per quello. Processo. Sì, mi noi scusi, in 4 però... anni abbiamo fatto moltissimo, non poco, perché in 4 anni fare un piano su Bagnoli che prevede spiaggia, litorale, lungomare, archeologia industriale, edilizia sociale, parco, farlo votare, farlo approvare ai cittadini, a fare un'interazione col governo, con la regione, guardi. Quindi per lei la decisione di commissariare Bagnoli è giunta, come dire, un colpo a freddo, dopo che c'era stato un dialogo col governo su questo suo piano. Ma non solo piano, attenzione, il 14 agosto, ecco perché io non ho un pregiudizio al Presidente del Consiglio, noi avevamo fatto un lavoro con il governo complicato, si era arrivato non solo a un accordo così di massima, si è firmato un atto ufficiale nel quale noi ci impegnavamo, e in questo anno alla fine noi avremmo potuto fare passi da gigante. Dopo quella firma è intervenuta la legge Sblocca Italia col commissariamento, e in un anno, questa è un'altra cosa grave, il commissariamento non si è attuato, quindi invece di accelerare ha tenuto per un anno il governo fermo a Bagnoli. Quindi lei dice si è bloccato quello che avevate fatto voi e non è partito niente. Allora io questo dico, siccome c'era un piano, il piano è stato approvato con quel protocollo, in questo anno avremmo potuto fare quell'accelerazione di cui dice lei, invece Renzi ha detto no, io voglio commissariare. Ok, e su Bagnoli diciamo che abbiamo già un po' chiarito. Il tema inceneritori, anche questo fa infuriare. Lo Sblocca Italia, un'altra cosa prevista dallo Sblocca Italia, prevede che si debbano costruire in Italia 12 nuovi inceneritori. Ci sono regioni che sui rifiuti sono in regola, anzi vanno anche oltre i limiti già previsti oggi di raccolta differenziata, tipo il Veneto, che rifiutano assolutamente la Toscana di avere nuovi inceneritori, però in Campania forse... visto che qual è la situazione adesso nella sua città a proposito? Allora, la situazione della nostra città, lei ricorderà, quando io fui eletto nella campagna elettorale c'era l'emergenza rifiuti. Noi dall'inizio della mia sindacatura, emergenza rifiuti nella mia città, la città in strada, di... rifiuti non ci sono, più. Allora il tema è come... Però dove realizzare... vanno questi rifiuti? Questo glielo voglio chiedere. I rifiuti adesso riuscite a gestirli in autonomia o vengono ancora esportati? No, i rifiuti riusciamo a gestire avendo fatto funzionare meglio gli impianti cosiddetti STIR. Ovviamente dobbiamo adesso mettere definitivamente in sicurezza anche per il futuro un trattamento diverso dei rifiuti, ed ecco perché noi siamo per gli impianti di compostaggio che abbiamo cominciato a programmare e contro la realizzazione di nuovi inceneritori. Cioè, attualmente non ci sono rifiuti che escono da Napoli per essere smaltiti altrove? Pochissimo, in questo momento qua storico che stiamo parlando no. abbiamo utilizzato per un periodo il trasferimento di rifiuti all'estero, sì, perché nel momento in cui, appunto, non avendo ancora un'impiantistica forte, allora il tema oggi è questo: che impiantistica vogliamo? Secondo Renzi altri inceneritori, secondo me, secondo altri, cercare di realizzare il maggior numero possibile di impianti di compostaggio per il trattamento della frazione umida insieme alle altri per i trattamenti dei rifiuti di tipo tradizionale, impianti stirre ed altro. Quindi, siccome noi in Campania abbiamo già un inceneritore, noi riteniamo che non ci sia bisogno di altri inceneritori. Però in regioni come, per esempio, in Lombardia ce ne sono una decina, in Veneto ce ne sono diversi, in Toscana pure, possibile che non ci sia bisogno neanche di un inceneritore? Perché guardi, se lei guarda la cartina d'Italia, altrimenti poi gli abitanti del nord pensano sempre la stessa cosa: al sud non vogliono l'inceneritore, ce ne sono 50 nel centro nord, 15 al centro e 15 al sud. E rispondo subito: gli impianti del nord oggi hanno il problema che chiudono perché non hanno rifiuti da bruciare. Io sono assolutamente contrario e anche ritengo, non voglio adesso, ma anche con le prime interlocuzioni che ho avuto col presidente della regione da poco eletto, in Campania noi riteniamo che non ci sia assolutamente bisogno di un nuovo inceneritore. Con De Luca va d'accordo, meglio che con Renzi? O no? Perché De Luca è un renzianissimo. Ma io credevo di poter andare all'inizio più d'accordo con Renzi, visto che era un ex sindaco. Questa è anche un po' stata una sorpresa. De Luca si è insediato da poco, abbiamo avuto un paio di incontri, speriamo di poter lavorare concretamente insieme nell'interesse dei nostri territori, dei nostri concittadini. Però siete due tipi un po' diversi? Abbastanza, sì. Com'è lui? Un po' lo conoscete. Il presidente della regione mi sembra, dal primo incontro che abbiamo avuto, che è un uomo concreto. Ovviamente siamo diversi sul piano politico, umano, sì, anche caratteriale, però io credo ci sono spazi per intraprendere una collaborazione importante dal punto di vista istituzionale. E invece su Renzi siamo passati da come Berlusconi a dire adesso è peggio di Berlusconi? Diciamo che ha fatto quello che Berlusconi voleva fare e che non era riuscito a fare. Faccio alcuni esempi. Berlusconi tentava anche all'epoca di intervenire sulla compressione dei diritti dei lavoratori e non c'è riuscito Renzi col Jobs Act. La riforma della scuola ci provarono più volte, la Gelmini eccetera, Renzi è stato capace di smantellare con leggi ordinarie la scuola pubblica, e così anche su, per esempio, i tagli agli enti locali, che significa tagli ai servizi dei cittadini, una politica centralistica che nemmeno ai tempi, diciamo, di Berlusconi o di altri governi si era riuscito a fare. E così anche sulla, per esempio, l'utilizzo, come ho scritto, continuo di colpi di decreti legge e fiducia. Insomma, questa è una torsione sicuramente autoritaria che non è propria di un paese. Però, insomma, i decreti e le fiducie, qualunque governo ha ricorso a questo. Però quando lo facevano gli altri si criticava anche molto l'utilizzo. Lui gode di un maggiore comunque consenso, allora io credo sia giusto che qualcuno faccia notare che la Costituzione non si può svuotare con legge ordinaria. Ma lei a Napoli non usa le delibere, le ordinanze, i decreti, cose che si impongono alla cittadinanza, anche se magari possono non piacere, ma che vanno fatte? Allora, che cose che io faccio possono non piacere, viva Dio, fa parte ovviamente della democrazia, però io utilizzo strumenti ordinari, cioè nel senso utilizzo le delibere di giunta che sono atti collegiali, c'è il Consiglio Comunale, anzi a Napoli stiamo cercando anche molto di far partecipare i cittadini alla vita del governo della città con diverse esperienze di autogoverno cittadino, di agorà sul territorio, quindi come l'ho scritto anche lì, abbiamo tanti limiti, tanti difetti e facciamo anche errori, però siamo diversi dal centralismo e dall'autoritarismo che secondo noi caratterizza il governo Renzi. Che a voi non piace. Senta, un altro punto da toccare per quanto riguarda la sua città è che lei dice si differenzia dal modo in cui il governo gestisce i servizi, che punta solo a delle privatizzazioni. Invece lei dice, rivendica, che sulla questione dei trasporti in città avete salvato l'azienda pubblica. Ma lei oggi giudicherebbe ben funzionante il servizio trasporti a Napoli? È che io la ringrazio di questa domanda, perché noi abbiamo da un lato deciso di non mettere sul mercato servizi essenziali. L'unica città che ha fatto l'acqua pubblica con referendum, i trasporti non li abbiamo messi sul mercato, l'emergenza rifiuti l'abbiamo risolta perché abbiamo eliminato esternalizzazioni. Funzionano bene i mezzi. Che avevano servito anche Camorra e altro. Oggi i servizi pubblici come li abbiamo garantiti noi funzionano come desideriamo? Assolutamente no, però abbiamo evitato di fare esternalizzazioni, di mettere sul mercato servizi essenziali, di privatizzare. Va bene, però dal punto di vista del cittadino, in questi questi 4 anni per quanto riguarda i trasporti. Ok, non avete esternalizzato, però potrebbe dire chi se ne frega, arrivo, vado a prendere l'autobus, non passa l'autobus e per me resta il problema, o no? Questa è un'analisi, come dire, del cittadino, però anche un pochino approssimativa. Se i trasporti pubblici non funzionano come vorremmo è perché governo e regione hanno tagliato agli enti locali, e tagliando agli enti locali si taglia anche al trasporto. Ecco perché io sono critico su queste politiche, perché possono spingere i comuni a mettere tutto sul mercato, quindi mettere l'acqua sul mercato, mettere il patrimonio sul mercato, mettere l'igiene urbana sul mercato. E sì, io sono molto preoccupato perché l'igiene urbana, per esempio i rifiuti, proprio chi li aveva messi sul mercato si era favorito un circuito della camorra. Quindi, senza generalizzare, perché io posso anche ritenere assolutamente legittimo un mio collega sindaco che abbia voluto privatizzare parti di servizi, però noi a Napoli garantiamo dei servizi che non sono ancora quelli che desideriamo, ecco, però noi abbiamo messo in campo un'azione che punta, sì, a raggiungere il buono, non ancora, domani l'ottimo. Non ancora l'ottimo, da 0 a 100 come giudicherebbe i trasporti di Napoli? Che voto darebbe? Ma non andiamo, per quanto riguarda la gomma, non andiamo oltre il 6. Per quanto riguarda da 0 a 10, spero, non da 0 a 100. Io ho detto 0 a 100, se mi dice 6. Ah, non avevo capito 0 a 10. No, avevo capito 0 a 10. Facciamo, ecco, 0 a 10, allora facciamo 0 a 10. 0 a 10, trasporto su gomma non 6, oltre il 6. Il trasporto metropolitano, credo che abbiamo una delle migliori metropolitane riconosciute anche d'Europa, del mondo, quindi credo ci possiamo dare anche un 8. Ovviamente per i soldi che abbiamo è un miracolo, perché io quando ho ereditato Napoli in predissesso con 1,5 miliardi di debiti e 850 milioni di disavanzo, c'era il rischio che non era da 0 a 10, noi chiudevamo proprio i trasporti della città, quindi io anche perciò sono arrabbiato, perché noi governiamo senza soldi. Senta, un'ultima cosa riguarda invece più in generale la gestione degli immigrati. Napoli accoglie, lei è uno tra i sindaci che accoglie, quanti ne avete accolti? Tanti, ne abbiamo accolti tanti, e quindi noi siamo sulle posizioni che c'è innanzitutto un imperativo morale di solidarietà e di accoglienza. Poi dopo viene ovviamente il tema economico, attiene alla responsabilità dell'Europa, dei governi centrali, ma noi tutti, quindi ho sentito all'inizio la quartiera, noi tutti abitanti, sì, di una città, comunità laiche e religiose, abbiamo secondo me il dovere in un momento così drammatico, anche per responsabilità dell'Occidente, per guerre ingiuste e per tante altre cose, di accogliere bambini, anziani, donne, insomma rifugiati, persone che rischiano la vita, che muoiono e che soffrono. Anche noi siamo stati un popolo di immigrati. Certo. Se non ci fossero stati immigrati meridionali, New York non sarebbe la New York di adesso, probabilmente, con l'immigrazione di 100 anni fa. Il Vaticano oggi in pratica è un po' corretto, Monsignor Galantino ha detto, non soltanto ha dato dei piazzisti, ma quello ieri ai politici che sfruttano i temi dell'immigrazione, che si riferiva alla Lega naturalmente, oggi però ha detto il governo quasi assente su questo tema. Lei è d'accordo? Come ha gestito il governo questo fenomeno degli immigrati? Alfano, ministro Alfano. Molto male, io penso che ha gestito male l'Europa, innanzitutto, che la prima responsabilità io la darei all'Europa, ai vari governi pure che sono succeduti negli ultimi anni, i governi nazionali, compreso la Lega che oggi pontifica ma che ha governato fino a poco tempo fa, e anche il governo Renzi, perché ha continuato a scaricare sui comuni, a cominciare da Lampedusa a salire, quindi la responsabilità di non avere risorse, di non avere mezzi, però noi siamo popolazioni solidali, per esempio al sud non esiste il respingimento, il razzismo, cioè noi vogliamo, come dire, realizzare ponti di accoglienza e abbattere mura di indifferenza, quindi non ci appartiene il respingimento, quindi su questo siamo sulle posizioni di Papa Francesco, almeno nella città di Napoli. Grazie De Magistris, grazie. Grazie a voi. Buona serata, sindaco, grazie, di Napoli. 800 24 00 24, molti gli argomenti toccati, cari ascoltatori, ci risentiamo tra pochissimo dopo la borsa. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio, ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo, buonasera ad Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, abbiamo appena sentito l'intervista a Gigi De Magistris, il sindaco di Napoli, un politico. I politici sono sicuramente una delle categorie da scrivere tra i mentitori, tra quelli che dicono balle, così come gli uomini d'affari, ma anche quelli che fanno tradimenti, i fedifraghi, mariti e mogli che tradiscono. Allora state attenti, perché secondo l'Università di Oxford c'è un nuovo sistema, una nuova macchina della verità, si chiama Dei Sei, ed è in grado di misurare, sfruttando una serie di algoritmi di analisi linguistica e semiotica, i livelli di umorismo, sarcasmo e, per l'appunto, sincerità in ogni testo scritto da un essere umano. Quindi, insomma, i mentitori potrebbero avere le ore contate, ma siccome noi cerchiamo sempre un lato positivo in tutta la faccenda, siccome le bugie si possono dire anche a fin di bene, perché no, per conquistare per esempio il fidanzato, la fidanzata, per non far arrabbiare il fidanzato, per non fare stare in pensiero i genitori, oppure a volte nei colloqui di lavoro si esagera un po', sì l'inglese lo parlo bene, eccetera eccetera. Allora quella volta, stasera vi chiediamo che avete detto una balla a fin di bene. 800 24 00 24, anche questa sera la risposta più entusiasmante, più interessante, più divertente, a giudizio insindacabile nostro, della redazione Si può fare, si porta a casa la mini guida di Expo, edita da 24 ore cultura. Cominciamo con gli ascoltatori e andiamo, dove andiamo? Con Francesco che ci chiama da Roma. Buonasera Francesco. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Grazie di avermi chiamato. Sì. Volevo rispondere in quanto riguarda gli emigranti che vanno a fare la raccolta del pomodoro in Puglia. Sì, perché ieri abbiamo aperto con l'intervista a Bracciante Ibrahim dal ghetto di Rignano Garganico. Sì. Allora io dico questo, come sono a Roma, però sono pugliese di nascita. Guardate che anche in Puglia ci sono anche gli italiani che vanno a lavorare nelle campagne con questi caporali che li prendono la mattina alle 4 di mattina e vanno a fare dei lavori, che poi la campagna non ha bisogno solamente della raccolta. Certo, assolutamente, ma non è che non, l'intervista era per mettere in luce quel tipo di situazione lì, poi che siano italiani o stranieri poco importa, persone pagate 20 euro al giorno per raccogliere. Sono molti stranieri, ma ci sono anche degli italiani. Grazie Francesco, grazie, buona serata. Andiamo con Ivana che chiama da Bergamo. Ivana, buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie Ivana. Dunque, volevo dire, questi poveri ragazzi che io li vedo anche accattonare, sì, sono dei bei ragazzi con un bel fisico, eccetera. Ma chi, scusi Ivana, dove sono tutti questi bei ragazzi col fisico? Beh, sono ragazzi giovani con un bel fisico, insomma, sono robusti. Ma a chi si riferisce, scusi, a chi si riferisce? Ai ragazzi neri che chiedono anche l'elemosina. Ok. E i loro governanti, io ho sentito che spendono miliardi in Costa Smeralda, e quello che mi domando è perché questi ragazzi, invece di accattonare, non si impegnano a casa loro per cambiare le cose, come abbiamo fatto anche noi. Sì. Anche noi 150 Ivana, anni Ivana, che fa, dire, la sua domanda è giusta, però è una di quelle domande che è una di quelle domande che restano un po' nel vuoto, perché anche noi ci siamo impegnati per cambiare, ma anche loro, in Siria c'è una specie di guerra civile continua tra una parte e l'altra, bisognerebbe conoscere la storia di questi paesi. Certo, ma loro usano la loro religione oppressiva, sì, e antica per fargli fare quello che vogliono, perché io in Siria sono stata... Sì. Parecchi anni fa, e era un posto bellissimo. E com'era? Bello? Dove è stata? Era bello. A Damasco? Io sono stata a Damasco e poi ho girato anche altre città. C'era non aveva paura? Che anno era? Non aveva paura? No, perché... Era prima che ci fosse... Bene. Sì, che anno era? Certo. Che anno era? Dunque, sarà stato poco prima della guerra, un anno prima. Ma di quale guerra, scusi? Di quella che stanno facendo adesso. Ah, quindi nel 2009-2010? Sì, e si stava benissimo, era una città accogliente, la gente era carinissima, era molto bello. Non capisco cosa è successo, perché... Ivana, sono successe delle cose, c'è stata una guerra praticamente in Siria, adesso c'è l'ISIS, insomma questa è cronaca. Comunque grazie per essere intervenuta. Dove andiamo con... Fernando che ci chiama da Massa Carrara. Fernando? Sì, pronto? Buonasera. Buonasera. Il mio intervento riguarda la risposta che lei ha dato a un ascoltatore che era intervenuto sul fatto che il Vaticano non sembra molto propenso a pagare le tasse, segnatamente l'IMU. Chissà cosa ho detto, Fernando, sbagliato qualcosa? Ha detto che però il Vaticano non paga le tasse ma fa tanta beneficenza. Ho detto allora questo? Io volevo ricordare che da qualche parte è scritto: date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Sì. Poi volevo rammentare che un comune cittadino come me, che ha un'adozione a distanza, pur avendo una modestissima pensione, non può dire al suo comune di residenza: ma io faccio beneficenza, non fatemi pagare l'IMU. Quindi la Chiesa in questo senso non può essere esentata in nessun modo da pagare l'IMU. Questo motto che lei ha recitato all'ascoltatore non mi è piaciuto perché non tiene conto di questi aspetti. Va bene, ma io non credo di aver detto. Però io non credo di aver detto. Fernando, mi scusi, io non credo di aver detto che siccome fa beneficenza non deve pagare l'IMU. Non credo che. È sottinteso. No, ma guarda, allora l'hai sottinteso male, perché io non lo penso. Penso che debba pagare, diciamolo ufficialmente, io penso, Alessio Maurizi pensa, che la Chiesa debba pagare l'IMU. Certo, quasi sempre, poi forse... Deve fare tutte e due le cose, deve. Sì. Non è che facendo una non possa fare l'altra, deve fare tutte e due le cose. Come fanno tante onlus che pagano pure l'IMU e poi però fanno anche beneficenza. Grazie Fernando, buona serata. Dove andiamo? Giuseppe da Chieti. Giuseppe. Buonasera dottor Maurizi. Prego. Lei che è un radical chic, no? Io sì, grazie. Pur l'anno scorso avevo chiamato. Ah vabbè, allora siamo vecchi amici. Sì. Adesso la conta dei clandestini, a quanto siamo arrivati? Ma lo dica lei, che non è un radical chic. Glielo dico io, sì. 180 l'anno scorso. Pochi, 180 sono pochi, Giuseppe. Aspetti, 200 quest'anno. 200, pochi, sono pochi 200. 200.000. Fra 3 anni arriveremo a 1 milione di clandestini. Anche due, io direi. Anche tre. Un po' se li porterà pure lei a casa sua, va bene. Sì. No, ma quello che volevo dire io, ma a me chi me l'ha ordinato, il medico, di vivere in mezzo ai musulmani, che i documenti non li portano? Però il Corano, quello là, i musulmani, scusi Giuseppe, i musulmani non portano i documenti, portano solo il Corano? Sì. Questa è la sua visione della situazione attuale? Lei si deve curare, deve prendere qualche droga migliore di quella che prende, Giuseppe? No, scusi, non ho capito, mi dica? No, dico, lei si deve curare, perché se pensa che i musulmani vanno in giro senza documenti e col Corano, si deve curare, perché ha una visione un po' distorta dalla realtà. Lei dove vive? A Milano. A Milano? Va bene. E no, pensavo vivesse sulla Luna. Sì, a volte anche sulla Luna. Insieme a lei, Giuseppe, insieme a lei. Scusi, i musulmani vanno in giro senza documenti, tutti? No, i musulmani che arrivano, clandestini, i documenti non li portano. Perché si chiamano clandestini? Però il Corano è sicuro che lo portano. Guardi, alcuni di questi hanno documenti e chiedono il diritto d'asilo e anzi vengono con un sacco di papiri, di documenti, perché vogliono avere riconosciuto questo diritto d'asilo, quindi questi escludiamo. Lei continui così che fra poco siamo al limite. Ha visto quello che è successo all'isoletta della Grecia lì? Fra poco poi mi saprà di dire lei. Stia tranquillo. Anche lei, Giuseppe. Continua a vivere nella luna. Anche lei, Giuseppe. Mi raccomando. Anche lei. Grazie. Un po' se li porterà pure lei a casa sua, va bene. Va bene. Giuseppe, che dobbiamo fare? La pensiamo diversamente. Andiamo con Ugo che chiama da Torino. Ugo, buonasera. Buonasera, grazie. Io spero di essere sintetico. Gli scenari dai quali pervengono i clandestini, poi diventino migranti oppure profughi, sono 10 circa, dei quali 2 coinvolti in scenari di guerra. Non ho capito, scusi. Ah, gli scenari, lei intende i luoghi da dove provengono? Esatto. 10 esatto. Scenari ci sono, ce li farà tutti stasera? Cominciamo. Ecco, no. Ho fatto una premessa, spero di poter essere sintetico. Sì. 2 sono scenari di guerra. Siria, uno per tutti. A questo punto ritengo che il problema non lo potremmo risolvere né noi italiani da soli, né tantomeno la comunità economica europea. economicamente, e non sto qui a dicerare cifre o altre cose, no, non stia. Se noi potessimo creare delle zone franche sotto l'egida della NATO negli scenari di guerra, sì, e far arrivare in quelle zone i profughi. Sì, questa è una bella mentre proposta. Se noi facessimo degli interventi per quanto concerne il creare l'autonomia proprio economica di vita corrente presso gli altri scenari, e qui potrebbe essere l'Europa, intanto potremmo definire questi aspetti nell'arco di 12 mesi e con fondi che hanno un limite prestabilito, sì, con il quale poter fare formazione, perché questa gente possa vedere in quei casi dove non c'è cultura oppure dove non c'è conoscenza, possa capire come fare a produrre l'acqua che poi loro potranno bere, mentre che noi stiamo facendo un'azione che dai connotati che ha diventerà infinita e non la potremo mai risolvere. Ugo, per restare alla sua metafora dell'acqua, svuotare l'oceano con un secchiello è quello che stiamo cercando di fare noi, con l'accoglienza. Però mi scusi, perché una cosa, sì, lei ha detto una cosa interessante, secondo me, anche se è una proposta al momento molto lontana, diciamo, dall'essere realizzata, quella di creare le zone sotto un controllo della NATO o delle Nazioni Unite, però ci vuole anche un controllo militare, quindi lei giustamente auspica la NATO, nel quale si facciano i riconoscimenti eccetera eccetera, e sì, delle persone che richiedono diritto d'asilo, e poi si decida dove mandarle, smistarle eccetera. Questo però prevederebbe, come dire, un ordine internazionale, mondiale forse, molto più razionale di quello che è adesso, dove i singoli governi in realtà agiscono molto più sull'onda dei calcoli elettorali, delle emozioni, delle emotività, che non di un ragionamento come faceva lei. Qualcuno ogni tanto tira fuori questa ipotesi, al momento è fantascienza, però lei ha ragione, io credo che non sia sbagliato ricordarla questa ipotesi qua. Grazie, buona serata, ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo con Cecilia Strada. Viva, cioè, continua a vivere nella luna, mi raccomando. Si può fare l'attualità anche d'estate. Help, I need somebody. Help, not just anybody. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. È presidente di una ONG che aiuta un sacco di gente nel mondo, ha spesso posizioni non convenzionali, non ha simpatie leghiste, ma non è nemmeno ascrivibile, non so come dire, al partito dei vescovi. È una persona adatta quindi per entrare adesso nel merito di una discussione che sta attraversando l'Italia. È Cecilia Strada, buonasera. Buonasera a voi. Allora, accoglienza sì degli immigrati, ma come però? Perché non se ne viene a capo, ma soprattutto la prima cosa che ti voglio chiedere è: ha fatto bene il Vaticano a intervenire in questo dibattito oppure doveva starsene fuori? Ma io penso che sia stato un intervento interessante da ascoltare, d'altronde il Vaticano parla di tante cose che riguardano la politica del quindi nostro non solo stato, gli immigrati, non perché non avrebbero dovuto stare zitti questa volta. Ma il Vaticano ha le carte in regola per entrare in entriamo subito in questa polemica dal tuo punto di vista, cioè dà una mano abbastanza con le chiese che ci sono sparse sul territorio, qualcuno ha calcolato diciamo 30.000 parrocchie, basterebbe che tre immigrati per ogni parrocchia e il problema sarebbe risolto. Una ma visione io semplicistica. Non sono una grande fan del delegare alla carità e alla generosità dei singoli, forse anche della singola parrocchia. Credo che il Vaticano abbia espresso un punto etico sul quale penso che sì, evidentemente sia titolato a parlare. Un principio di accoglienza, un dovere di accoglienza, di smettere di trattare quelli che cercano di arrivare nel nostro paese scappando dalle situazioni peggiori come se fossero dei cittadini di serie Z, tra Lasciar morire in mare, perché francamente condivido totalmente questo paese, è un po' passato, molte persone in questo paese hanno un po' passato il senso, il segno della, della etica basilare con cui si affrontano le relazioni umane. Giusto il discorso che fai sul punto etico toccato dal, dal Vaticano, che è titolato per intervenire su questi argomenti, questo è il tuo punto di vista, io condivido, però bisogna essere anche credibili, te lo chiedo, per intervenire in questa materia, cioè, e quindi ritorno alla domanda, il Vaticano secondo te, la Chiesa in Italia oggi è credibile oppure ci sono ancora troppi lussi, privilegi, troppa Chiesa lontana dalla gente, poca Chiesa vicina alla gente come invece auspica qualcuno? Non sono una gran vaticanista e nemmeno una gran parrocchiana, quindi non sono forse la persona più adatta a rispondere a questa domanda. Vedo come ovunque che ci sono diverse tensioni, ci sono le parole di un papa che non posso che condividere sul tema, ci sono tante persone, molte ne conosco, di preti che a livello delle loro parrocchie si fanno in quattro per riuscire a garantire un'accoglienza che però non sarebbe il loro lavoro di garantirla, è lo Stato che deve occuparsi di queste cose, non credo le parrocchie, nemmeno forse le organizzazioni non governative come le nostre, dovremmo avere uno Stato per questo. Ecco, appunto, voi con Emergency, diciamo, siete degli esperti anche di logistica, di organizzazione delle situazioni d'aiuto e d'emergenza. Come giudichi invece il modo in cui il governo ha gestito questa che viene definita un'emergenza, ma ormai insomma parliamo di un fenomeno regolare di sbarchi? È un fenomeno assolutamente regolare, succede ormai da anni e continuerà a succedere, perché basta guardare quello che succede nei paesi da cui stanno scappando per capire che assolutamente non finirà. Il problema è davvero è strutturale, è il problema di un sistema che da un lato tiene i richiedenti asilo nel nostro paese per dei tempi spropositati, ci sono delle tempistiche per esaminare le pratiche veramente molto lunghe, troppo poi lunghi. Però ci lamentiamo che queste persone stanno tanto tempo sul nostro territorio, c'è il problema che non c'è un diritto d'asilo europeo, non c'è coordinamento e non c'è un diritto d'asilo europeo, per cui le persone anche con un sistema logistico più efficiente continueranno a cercare di scappare per non essere affatto segnalati, per chiedere asilo nel posto dove vogliono andare, che nella maggior parte dei casi non è l'Italia. C'è sicuramente un problema di controllo sulla gestione delle risorse che vengono utilizzate nell'accoglienza. Ci sono secondo te degli sprechi, ma o anche proprio queste sono delle inchieste che ci stanno lavorando sopra, della magistratura, anche delle vere e proprie fenomeni di corruzione, su questo ormai mi sembra che ci sia pochi dubbi. Come no, i famosi soldi che secondo chi soffia sul fuoco del razzismo finiscono nelle tasche degli immigrati, finiscono, ce lo dicono le carte di Mafia Capitale, dove sono finiti i soldi destinati all'accoglienza degli immigrati. Sicuramente si può fare molto di più, però credo sia difficile che l'Italia lo faccia da sola. L'Italia lo deve fare insieme all'Europa, perché dobbiamo essere l'Europa delle persone, non solo l'Europa delle merci. È impensabile pensare che una Grecia o un'Italia, che sono quelli che stanno ricevendo il maggior numero di persone che sbarcano sulle loro coste, possano gestire la situazione da soli, in autonomia. Ma secondo te è stato giusto, diciamo, delegare e scaricare anche sugli enti locali, sulle regioni, sui comuni questa accoglienza? C'è stata una carenza di coordinamento da parte del governo e del ministro Alfano da questo punto di vista, oppure invece è giusto che le comunità per impreparazione a un certo punto scaricare, forse dall'inizio, scaricare sugli enti locali la situazione, e qualcuno ha detto meglio, qualcun altro no. Certo, qualcuno si è sentito completamente abbandonato. La provincia di Siracusa, dove noi lavoriamo dal 2013 con un ambulatorio mobile per assistere chi sbarca e viene messo nel centro d'accoglienza, la provincia di Siracusa, che è una provincia che non si cita mai quando si pensa agli sbarchi, ha accolto 70.000 persone in 2 anni, che sono cifre molto importanti, e hanno dovuto fare sostanzialmente tutto da zero, tutto da soli, con risultati molto, molto importanti. Cosa ne pensi invece di quei sindaci, alcuni sindaci del nord? Ieri il presidente della regione Lombardia, Maroni, ha scritto un tweet: sto dalla loro parte, quelli che dicono che difendono le loro comunità rifiutandosi di accogliere immigrati. Mi dispiace essere un cittadino della regione Lombardia quando sento queste dichiarazioni, sono francamente imbarazzanti, ma è imbarazzante tutta la retorica dell'invasione, è imbarazzante un paese che dice siamo in ginocchio, così come è imbarazzante un'Europa che dice siamo invasi. In Europa ci sono 1.700.000 rifugiati, poco più che quelli che ci sono nel solo Pakistan, e siamo un continente con 740 milioni di abitanti che si sentono piegati dall'arrivo di 150.000 persone. Questa quindi cosa... non c'è nessuna cosa da cui questi sindaci devono difendere i loro concittadini, secondo te? Cioè l'arrivo di questi immigrati... Ma penso che dovrebbero difendere i propri cittadini che dovrebbero difendere i cittadini lombardi dalle facili lusinghe di chi soffia sul fuoco di una guerra tra poveri. Quello che sta succedendo nel nostro paese, in cui si cerca di continuare a convincere la gente che se fanno fatica ad arrivare alla fine del mese è colpa di un eritreo o di un siriano che sono sbarcati ad Augusto a Pozzallo. Questo è veramente grave, questo fa veramente paura, non l'arrivo di 5 persone in un comune, di 4 bambini o di 50.000 persone dall'inizio dell'anno nel nostro paese. Quello che fa veramente paura è la guerra tra poveri che viene stimolata troppo frequentemente nel nostro paese. Questa cosa del prima gli italiani a te non va proprio giù, l'hai scritto anche su... su Facebook, dicendo se qualcuno pensa che bisogna prima aiutare gli italiani degli stranieri, allora non dateci più i soldi, non finanziateci proprio più, perché noi questi soldi non li vogliamo. No, perché sarebbe assurdo chiedere, dare dei soldi a un'organizzazione medica e poi chiedere a un medico di fare le graduatorie di chi merita di essere curato in base al colore della pelle. Proprio, non è un capriccio di emergency, è proprio una cosa che non è compatibile con la medicina. In medicina si cura chi ha bisogno, e questo è l'unico criterio di accesso alla cura. Per inciso, noi lavoriamo in Italia dal 2006, dove le strutture sanitarie sono aperte a tutti, curiamo anche gli italiani, curiamo chiunque ne abbia bisogno, ma ovviamente dentro una sala d'attesa l'unico criterio che detta l'ordine è il bisogno, non certo il colore della pelle. Se qualcuno si sente disturbato da questo può tranquillamente non darci soldi, siamo a posto così. Ecco, ma tra il livello diciamo emergenziale su cui lavorate voi, gli ospedali, la sanità, la cura delle persone, e invece la gestione di un fenomeno più complesso come l'immigrazione, non è la stessa cosa però, perché quello che tu dici vale, credo, vale sicuramente per voi, che cioè un medico chiaramente non si può rifiutare di curare una persona, però l'accoglienza vale la stessa cosa invece secondo te anche per l'accoglienza, cioè l'Italia in sostanza dovrebbe comunque predisporsi ad accogliere chiunque arrivi. Io ero a giugno, ero ad Augusta, al molo di Augusta, dove il nostro poliambulatorio mobile ha cominciato a lavorare. Sono arrivate 300 persone, la sera prima erano arrivate 172, il giorno dopo un 400. Credo che sarebbe utile guardare in faccia le persone che arrivano, dal bambino col papillon, alla donna incinta, a quello che è stato sicuramente torturato, lo vedi, lo capisci nei segni sul corpo, a quello, anche semplicemente quello che sta cercando uno straccio di vita migliore che non può avere nel suo paese. Forse guardarli in faccia ci renderemmo conto che la scelta etica è l'unica possibile se vogliamo rimanere umani. Allora, scegliendo da che parte stare, poi bisogna mettersi ovviamente in condizione di offrire il sistema d'accoglienza più dignitoso per tutti, per chi arriva e per chi è già qui, perché un sistema di accoglienza non dignitoso è quello che oltre a danneggiare gli individui ma alimenta anche la paura. La paura tra chi è qui, il disagio tra chi era già qui e che non deve provare. Non vedo alternative all'accoglienza dignitosa, sinceramente. Grazie Cecilia Strada, buona serata, grazie per essere grazie stata con noi. Buona serata. 800 24 00 24, questa dunque è la voce di Cecilia Strada, presidente di Emergency, una ONG che è in prima linea, impegnata a dare un aiuto a un sacco di gente, e lo fa in una maniera organizzata sicuramente, quindi era un punto di vista sicuramente da ascoltare. Andiamo, abbiamo spazio per un ascoltatore prima di chiudere, andiamo con Francesco da Modena, buonasera. Sì, salve, buonasera. Vai sono... Francesco, sì, in no, un minuto. Sono consigliere di Comunale San Cesaro sul Panaro, volevo appoggiare De Magistris per quello che dice, cioè che Renzi è totalmente antidemocratico. Okay. Non sentirò mai l'ipocrisia del PD che ha votato il PD praticamente col peggior, quando si è alleato Renzi col peggior nemico che era Berlusconi, non ho mai capito, prima Berlusconi era il peggior nemico del mondo, poi quando si è appoggiato era Berlusconi per il PD. Assurdo, un branco di ipocriti. Poi vorrei dire, signora, che ho parlato prima, sì. Metti un po' meglio il telefono vicino alla bocca perché non ti sentiamo, Francesco. Ah, sì, sì. Eccolo, sì. Voglio dire alla signora che io ho avuto quella problematica lì nel nostro comune. 9 immigrati. Non sì. è la con il problema... mi scusi perché sento il mio ritorno di voce. Non è il problema dei 9 immigrati che arrivano che bisogna aiutarli. È che non sono gestiti, sono liberi di andare dove vogliono, girare dove vogliono. Potrebbero commettere un omicidio San Cesario, spostarsi a Napoli, poi andare a Milano. È questo quello che contesto. Devo io. Fermarmi, c'è il giornale radio. Grazie Francesco, ci risentiamo subito dopo 8024 0024. Nasce tutto il cibo del mondo? Da dove arriva il pomodoro? Chi sostiene la terra? Le domande dei bambini, le risposte degli scienziati. Da cibo a evoluzione, da spreco a sostenibilità. Le grandi parole di Expo raccontate ai più piccoli. Telmo, sei sicuro? Riusciremo a spiegare anche parole tipo biodiversità? Certo Federico, è la diversità degli animali e delle piante. E ci sono un sacco di sorprese. Tu per esempio sapevi di essere parente della banana? No, però vabbè, se lo dice un filosofo della scienza mi sa che ci devo credere. Vi aspettiamo ogni domenica alle 9 con interviste, esperimenti, storie, filastrocche e tante curiosità. Con Telmo Pievani e Federico Taddia, Terra in Vista, l'Expo come non l'avete mai visto. Si può fare l'attualità anche d'estate. Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andare. 100 lire le scarpe che ma in America no, no, no. 100 lire le scarpette ma in America no, no, no. Grillo non sa che cosa dice quando parla di immigrazione, perché sa benissimo che la Lega non specula sugli immigrati, sa benissimo chi ascolta e chi sa quelle che sono le indicazioni della Lega, sa benissimo che la Lega fa delle proposte in tema di immigrazione. Le proposte sono quando si parla di velocizzare i tempi per l'identificazione dei cosiddetti migranti, io li chiamo ancora clandestini. Quando furono in mezzo al mare il bastimento si sprofondò. La nostra storia è diversa, le parole possono coincidere a volte, possono coincidere con chiunque, ma la nostra storia, la gente deve guardare chi dice queste cose, non le cose che dice. La mia figlia va in pesca. Eccoci qua cari ascoltatori, di nuovo buonasera da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare, 18 20 e 30 800 24 00 24. Questa canzone, che è una vecchia canzone, mi dicono addirittura dell'Ottocento, in una versione di Giuliola Cinquetti, sarà degli anni 60 più o meno questa roba qua, quando ancora, diciamo così, fresco in qualche modo era il ricordo dei nostri nonni o bisnonni a questo punto, che migravano ed erano migranti loro stessi. Abbiamo sentito nell'ordine Centinaio e Grillo la concorrenza, se volete, che c'è un po' tra la Lega e il Movimento 5 Stelle sul tema dell'immigrazione. Giocano forse a fare chi è più sceriffo. Sentiamo ancora Grillo invece su Mattarella. Grillo che ieri è tornato con questa intervista nella quale poi ha anche detto, ha ribadito, ha confermato che non gli interessa il futuro del ruolo da leader politico, semmai forse più di tornare a fare spettacoli, chissà in televisione, chissà anche in questa nuova Rai. Io le avevo detto a Mattarella, detto, guardi, prima di firmare si prenda un insegnante che capisca il senso di queste cose, si legga bene parola per parola, perché la truffa è quella. La polemica tra il Vaticano e alcuni esponenti politici, diciamolo, fondamentalmente con quelli di centrodestra, ce l'aveva Monsignor Galantino quando diceva, in particolare quelli della Lega, che sono piazzisti da quattro soldi, quelli che strumentalizzano e soffiano sul fuoco dei temi dell'immigrazione. Don Mazzi e Daniela Santanchè. E ora che la finiamo che la Chiesa deve stare in Chiesa e la politica deve stare in piazza. Il Papa ha detto alla Chiesa è ora che esca. E la Chiesa sta uscendo. La Chiesa non voglio che sia infallibile, ma io voglio che parli e voglio che si comprometta, va bene, con la realtà. Perché ora che la finiamo pensando che la Chiesa parla del paradiso e la politica parla della terra. Io sono stufo. La mia figlia vai tu a la Chiesa nelle chiese insegna, nelle piazze si deve adeguare a quello che è il criterio del dialogo. Oh, questa sera però vi vogliamo coinvolgere, cari ascoltatori, anche su questo. C'è una notizia: secondo l'università di Oxford c'è un nuovo metodo, una nuova macchina per la verità, si chiama DAISY ed è in grado di misurare i livelli di sincerità in un testo scritto da ogni essere umano. Quindi politici, ma anche uomini d'affari e semplici cittadini sono avvertiti, perché le balle potrebbero avere le ore contate questa volta, sì, però siccome noi cerchiamo sempre il lato buono delle cose, e siccome insomma, una balla l'abbiamo detta tutti, soprattutto a fin di bene, allora autodenunciatevi, raccontateci quella volta che avete detto una balla a fin di bene. C'è un ascoltatore che al 3:42:38:6666 mi scrive: ho detto una balla quando ho pronunciato il sì nel giorno del mio matrimonio. Questa è non firmato chiaramente questo messaggio, però insomma si possono raccontare bugie a fin di bene in tante occasioni. Io ho fatto l'esempio, non so, colloquio di lavoro, ti fanno una domanda scomoda, senti che sei lì che stai per stringere e non puoi dire no, non conosco questo sistema operativo, non so bene questa lingua, devi dire sì per forza, perché sennò ti sfugge di mano. Ecco, raccontateci questi vostri momenti. 800 24 00 24, bugie a fin di bene. Anche questa sera racconto più interessante, mettiamo a disposizione un premio, la mini guida di Expo, edita da 24 ore cultura. Vai. Fa il cinghiale, dai dai dai, prova a sparare, prendi la mira tra i cespugli verdi, stai attento che se non lo perdi. Zoom, zoom, zoom, fa il cinghiale, dai dai dai, prova a sparare, ma stavolta è svelto per davvero, salta il fosso e ti fa marmeo. Dopo la morte di un uomo di 77 anni in Sicilia per l'aggressione di un cinghiale, la Regione Sicilia ieri ha autorizzato un piano di cattura e abbattimenti del cinghiale. Saranno d'accordo i cittadini che vivono nelle zone vicino ai boschi, minacciati dall'animale un po' aggressivo. Gli agricoltori saranno contenti perché il cinghiale è un predatore che devasta i campi. Non lo so se saranno contenti i cacciatori, perché vorrebbero essere loro a cacciare, come anche questa canzoncina ci ricorda. Il prestigioso animale. Animalisti e ambientalisti invece storcono il naso perché difendono la natura selvaggia. È con noi Carla Rocchi, presidente nazionale dell'Ente Protezione Animali. Buonasera. Buonasera a voi. Cosa ne pensa di questo tema? Il cinghiale è tornato ad essere una minaccia per l'uomo? Guardi, intanto togliamo subito la parola selvaggia, perché questi animali che sono in circolazione, sì, tutto sono tranne che selvaggi. Qui al monte di tutta questa situazione c'è un imbroglio e un business senza pari, che riassumo in 3 minuti. Gli animali vengono riprodotti, fatti riprodurre e inseriti forzosamente, diciamo artificialmente, nel territorio. Da chi? Dai cacciatori? È un problema politico, questo è un problema di soldi che girano, sono gli assessorati alla caccia e alla pesca che spendono i soldi nostri, sì, per importare cinghiali. Oltretutto li importano dall'estero, importano dei cinghialoni grandi che rispetto ai nostri piccoli cinghiali autoctoni sono tutta un'altra cosa. Ah, sono cinghiali importati, sono ibridi. Perché lo fanno? Perché li diverte importare i cinghiali? No, perché siccome i cacciatori sono considerati voti, sì, e tutto quello che è business, se visto cosa lascia nelle mani dei nostri amministratori, non c'è nemmeno l'acquisto di un fazzolettino per il naso che sia senza tangente. Questo grosso business di reimmissione di animali sul territorio significa che vengono messi sul territorio animali che prima non c'erano, vengono sprecati i soldi nostri, vengono fatti degli ibridi per cui i nostri cinghiali autoctoni non esistono quasi più. Questi animali vengono rimessi sul territorio e poi quando succede un incidente come quello recente in Sicilia, incidente, sì, veramente molto triste, anche perché questo signore cercava di difendere oltre che se stesso i suoi cani, certo, tuttavia è morta una persona, io ricordo, è morta una persona con nostro grande rammarico. Mi sembra i cacciatori non dicono mezza parola su quanta gente muore ogni anno per gli incidenti di caccia. Negli ultimi, dal 2006 a oggi, sono morte, tra morti e feriti, 807 persone sotto il fucile dei cacciatori. Qualcuno ha detto che bisogna fare gli abbattimenti dei cacciatori? creda che tutta questa faccenda non è una questione di divisione tra animalisti, agricoltori e quant'altro, è una questione di business. Beh, però ognuno ha una sua, un punto di vista, questo certo, sì, però questo sicuramente dei fatti, sì. Esistono dei fatti, perché questo fatto di spendere i soldi nostri, guarda, se le capiterà, il giro d'affari su questa storia è imponente, perché significa prendere i soldi nostri, lo sottolineo, sottratti ad altre destinazioni. Però, prendere gli animali è chiaro, però mi dica una cosa. Sì. Dal suo punto di vista, questo ripopolamento, anche se per come ce l'ha descritto lei, è ovviamente frutto, diciamo, di un percorso sbagliato, addirittura di corruzione, eccetera, eccetera. Però è condivisibile o no il fatto che si tornano a ripopolare i boschi con gli animali? Pensiamo all'orso, pensiamo al cinghiale. No, attenzione, sono due cose. Guardi, anche l'orso è una cosa che non andava fatta, perché vede che gli animali, quando abbandonano un territorio, non è che sono deficienti. Gli animali si abbandonano il territorio quando... Quindi se il cinghiale ha abbandonato i boschi italiani, basta, punto, bisogna farsi una ragione, ed è sbagliato fare quello che è stato fatto, cioè ripopolare. Se andiamo sull'orso, per esempio, solo per un istante, l'orso non c'era più nei posti dove è stato rimesso. Quando c'è stato rimesso si dice, ma l'orso è troppo vicino all'uomo, e grazie al cavolo, scusi il termine, l'orso se n'era andato perché era troppo vicino all'uomo, perché il territorio era antropizzato. Allora noi pretendiamo di mettere l'orso sul territorio, spendere 6 milioni di euro, la prego di sottolineare, soldi nostri, per rimettere l'orso lì dove era, per poi dare a qualcuno la patente per cacciarlo. Ma dico, ma se questi non sono imbecilli totali? Cioè, secondo lei si fa solo per creare un parco giochi per i cacciatori tutta questa cosa qua? Intanto si fa per grande ignoranza, perché vede, io ho frequentato la politica e ne ho tratto un insegnamento, che il peggio del paese sta là. Non è vero che la politica riflette il paese. Il paese è meglio dei politici che lo rappresentano, specie quelli locali. Allora, intanto si... Beh, questa a volte è anche un'illusione, mi consenta. Però, insomma, no, dico, questa a volte è anche un'illusione, mi Guardi, consenta. Non lo so, però forse, lasciamo forse adesso una tragedia, questo. Sì. Però, ecco, lei mi dica qual è il criterio per cui, qual è il vantaggio pubblico nel prendere 6 milioni di euro, 6 milioni, fare un piano di ripopolamento per gli orsi, sapere che poi gli orsi sono vicini all'abitato e poi dire no, siccome... Però, sono, scusi, non c'è stato un aumento della superficie boschiva in questi anni in Italia a varie cause concomitanti, la diminuzione dell'agricoltura, eccetera eccetera, e a questo è stato fatto corrispondere anche alcuni progetti, per esempio in Trentino per gli orsi ci saranno fior fior di ambientalisti che invece difendono quei progetti perché sono di rinascita di una certa natura. Io non voglio essere apodittica, ci mancherebbe altro, però le dico che se noi siamo ogni stagione di fronte a un meccanismo demenziale per cui si portano gli orsi in un posto e poi si dice che in quel posto non ci possono stare, bisogna o dargli la caccia oppure rinchiuderli nei recinti oppure lasciare orfani i cuccioli della povera Danica. Lei mi dica quel demente che si mette... Vabbè, a fare... Ma adesso, scusi, però a questo punto il danno è fatto. Cosa bisognerebbe fare secondo lei alla luce di quello che è successo? C'è un morto? Guardi, il danno non è fatto, il danno è ancora in facimento, perché per esempio questi cinghiali perché stanno sul territorio? Intanto perché ci vengono reimmessi, punto primo. Seconda cosa, ci sono gli allevamenti di cinghiali per uso alimentare e questi allevamenti non sono controllati, quindi i cinghiali entrano e escono e anche questo andrebbe controllato. Dopodiché basta circoscrivere le zone, basta sapere, basta togliere, avere una accortezza sulla presenza di rifiuti alimentari sul territorio. Ci sono mille cose che possono essere fatte. Cioè, è l'uomo che deve stare attento al cinghiale in qualche modo. Ma l'uomo deve stare... Ma allora mi scusi, no, perché questo è chiaro, ma che debba stare anche attento al cinghiale in zone abitate, questo non lo so. Tant'è vero che la Sicilia ha autorizzato un piano di cattura e abbattimento. Lei è contraria a questo? Io dico solo questo, che tutto quello che viene fatto in questo momento da una giunta screditata come quella del presidente della Regione Sicilia, si definisce da sola. Quindi dovrebbe lasciar correre, se non dovrebbe fare niente. Crocetta, di tutte le cose che avrebbe dovuto fare, compresa la sua reputazione, l'unica cosa che si è preoccupato di fare di forse è questa dei cinghiali. Perché? Perché ci sarà una ragione? Perché ritiene di prendere popolarità? Perché non capisce nulla di che cosa, non capisce di cosa sta parlando e che provvedimenti sta prendendo? Però mi scusi, perché soldi? Adesso anche qua c'è il business dei cacciatori, perché a quello che ho potuto leggere io, saranno i responsabili il personale delle aree protette, quindi non sono i cacciatori, non si aumentano le quote di caccia, sono il personale delle aree protette che dovrà corpo forestale. Io scommetto quello di cui Madre Natura non mi ha dotato, che questa operazione non sarà nelle mani, o non sarà totalmente nelle mani degli abbattitori selettivi, perché altrimenti non avremmo i cacciatori che si spellano le mani tutte le volte che viene fatto un provvedimento che autorizza gli abbattimenti. Creda, c'è un misto di denaro nostro sprecato e politica mal interpretata che in tutto lascia assolutamente sullo sfondo la pericolosità del cinghiale. Pericolosi sono i personaggi che ci lucrano sopra, che ci mangiano sopra e che ci confondono le idee. Ma i vostri alleati chi sono? Gli agricoltori? Perché gli agricoltori protestano molto per questi cinghiali che scorrazzano lungo nei loro campi. Guardi, sa quegli agricoltori quanto prendono di rimborsi? Lei ha idea di cosa? Per cosa? Rimborsi di cosa, scusi? Di tutto, dei danni. Per i danni dei cinghiali? Ma per qualunque tipo di danno. Cioè lei mi dice che se c'è un agricoltore che gli viene a mangiare la vigna, ha un rimborso da chi, scusi? Allora guardi, la regione ha dei fondi per rimborso di danni, sia quelli subiti dagli animali, sia quelli subiti in generale. Quando si dice il lupo mi ha mangiato la pecora, lei pensa che questa pecora sia un banchetto del lupo e finisce lì? Lei sa che c'è un giro di soldi dietro questi rimborsi dei danni subiti dagli agricoltori. È un'altra storia che fa impressione. Io sono così, come posso dire, così amareggiato. Io ne conosco qualcuno di agricoltori e non mi risulta che sia così facile, come dice lei, avere i rimborsi. Guardi, io non è questa la sede. Sbagliando. Io però, se le avrà piacere, le farò avere le tabelle. Con ci le faccia avere. No, come no, come no. Tanto tutti. Bisognerà riparlarne sicuramente. Ma sicuramente bisognerà tornarci su questo argomento. Quindi lei dice che la Regione Sicilia non dovrebbe fare catture e abbattimenti di cinghiali, che devono continuare a scorazzare tranquillamente dove ma la Regione Sicilia con chi si è consultata prima di fare questa emerita cavolata? Sì. Forse tutti chiamano gli esperti, no? Chi è l'esperto di cinghiali? Ma io le ho chiesto cosa dovrebbe fare la Regione Sicilia. Non dovrebbe fare un piano di cattura e abbattimento. La Sicilia dovrebbe fare qualunque tipo di piano, sentendo chi se ne intende. Ci sono istituti specializzati, io non dico che deve chiamare noi, probabilmente siamo di parte, ma ci sono istituti per la fauna selvatica che sono istituti di Stato e questi non vengono consultati mai perché è molto più comodo mettere... Ma scusi, ma il personale delle aree protette non è formato? Non stanno lì, il personale delle aree protette che la legge incarica di fare queste catture e questi abbattimenti non sono formati apposta? Il personale delle aree protette è la mano esecutiva. È come dire che io ho un problema di parcheggio in doppia fila e il vigile deve sanzionare, ma non è certo il vigile che fa il piano del traffico. Quindi Crocetta, facendo questo paragone, Crocetta ha messo a ragionare sui cinghiali quelli che poi dovranno abbatterli. E che pensi che operazione? Non c'è nessuna riflessione, non un dato scientifico, non un dato statistico. Ma per esempio noi non sappiamo nemmeno approssimativamente quanti sono questi cinghiali. Se ne vede uno in giro e vedendone uno dice oddio, ci saranno miliardi di cinghiali. Qualcuno dice un milione di cinghiali in Italia. Adesso qualcuno dice un milione di cinghiali in Italia ci sarebbero. Non c'è un dato. Possono dire un milione, un miliardo, 10 milioni, 10 cinghiali, non c'è un dato, perché in tutto questo è evidente che il denaro per il censimento sì. è forse... Io però le dico una cosa, poi magari ci risentiremo su questo. Io credo che se non intervengono le autorità con un piano, come è stato fatto in Sicilia, ma sarà sbagliato magari, non lo so, di cattura e di abbattimento degli animali che vanno dove non dovrebbero essere, mi dispiace per loro, se non lo fanno le autorità lo faranno i cacciatori, lo faranno i cittadini e forse sarà anche peggio. Lo stanno già facendo, ma io dico che questo nostro, i nostri ministri, diciamo il ministro, ma così non c'è nessuno più in cima di lui. Al ministro Galletti noi abbiamo chiesto in tutte le salse che predisponga uno studio e anche un'operatività, non soltanto lo studio, io sono anche operativa, però predisponga uno studio, perché se lei dovesse fare un piano per gli asili nido, a chi lo farebbe fare? A Barba Blu? E chiamerebbe le persone che si intendono di bambini, che si intendono dei diritti. Questa che è buona, questa è buona, ci ha fatto sorridere. Grazie, buona serata. Grazie a lei, grazie, Carla grazie Rocchi, mille, arrivederci. Dell'ente Protezione Animali 800 24 00 24. A tra poco. Vedo maiale molto setolosi, pelosi, selvaggi. Sono cinghiali? Cinghiolo. A Spunti di Vista ci occupiamo dei mille aspetti dell'attualità, quelli che incidono su come viviamo, sulla qualità della vita, i confronti e i modelli con gli altri paesi. Sono Irene Zerbini e vi aspetto con Spunti di Vista tutti i giorni dalle 7 alle 10 qui su Radio 24. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua cari ascoltatori, raffica subito di messaggi dopo l'intervista con la responsabile dell'EMPA. Si informi, gli agricoltori non ricevono rimborsi, oppure ancora i danni delle nutrie non li paga nessuno, dice Carlo da Cremona. Sulle nutrie ci sono parecchi messaggi, non è facile, non ci sono i rimborsi per i danni di fauna selvatica da parte dell'ATC. Ma non sono facili da ottenere, dice Marco da Pontedera, che è anche un agronomo. Allora, 800 24 00 24, andiamo con Stella che chiama da Verona. Buonasera. Buonasera. Prego, Stella. Volevo raccontarle la mia bugia. Allora, la bugia fin di bene? Sì, sentiamo. Sì. Quando avevo 14 anni sono stata operata, sono stata ricoverata all'ospedale per l'appendicite. Sì. E due giorni dopo, quando passavano per la colazione, perché parliamo di 60 anni fa, si stava dentro una settimana all'ospedale. Per un appendicite. Oggi è un po' migliorata la sanità. Via. Sì. E allora passa la suora col carrello, mi dice: cosa prendi, il tè o il latte? Non ci ho detto niente perché non mi piacciono. Ah sì, mi fa. E allora cosa mangi a casa tua? E io polenta e cinghiale. No. Perché mi sono inventata, ci ho detto: prendo un po' di crema marsala con dei biscotti. Cosa? Mi ha detto la suora, è rimasta sconvolta perché avevo 14 anni, ma quel tempo là era più che una bambina. Ma non ho capito la bugia qual era? Ci ho detto che per colazione prendevo la crema marsala, perciò un liquore. Ah, il liquore, biscotti. Il liquore, quindi era una bugia. Perché gliel'ha detto per farla ridere così? Non lo sapevo, al momento lì potevo dirle magari pane e formaggio, chissà. Gli è venuta così. Mi è venuto così. Il fatto ma la finalità di questa bugia, Stella, qual è stata? Cioè, lei non voleva non aveva voglia del tè, voleva qualcos'altro? No, mi piacevano proprio perché ma il latte non mi è mai piaciuto. Il fatto è che dopo quando che arrivato sì. Mia mamma alla sera, sì. La suora l'ha presa da parte, ci ha fatto una predica e ci ha detto: ma è così che lei è educata? È successo dopo un pieno perché la suora si preoccupava per la sua salute, pensava che la allevassero con il liquore di mattina. No, ma ci ha detto: è così che lei educa sua figlia. Ma lei poi Stella ha continuato a raccontare, Stella poi ha continuato nella vita a raccontare un po' di bugie ogni tanto? O no, è finita? Va bene, basta. Si è redenta. Grazie, subito dopo. Buona serata. Andiamo con Stefano da Roma. Buonasera. Buonasera, un attimo solo. Levo. Sì, levi con qualcosa. Grazie Maurizio di darmi questa occasione. Io però purtroppo dovrei riportare il tema sull'immigrazione, perché posso, sì. Certo, come no? Perché c'è la solita confusione che è classica in Italia, no? E che fa spostare tutte le discussioni lontane da un binario che invece è quello corretto. Che sarebbe? E mi permetto di dire che sarebbe questo. In Italia non ci sono, come la signora Strada vorrebbe farci credere, delle persone che hanno il cartello della giustizia, della bontà, di quanto vogliamo bene al prossimo, di quanto siamo bravi noi. E tutto il resto che sono dei razzisti, degli schifosi, dei retrogradi, quelli che non capiscono il progresso di queste società multietniche, che poi bisognerebbe andare a indagare un momentino come vivono queste società multietniche. Sì. No, io vedo, per esempio, sono stato costretto a chiamarla perché a me sembra che, dato che voi siete la trasmissione forse più corretta della radio in generale, la maggior parte delle persone che vi chiamano perché sono contrari a questo tipo di immigrazione, e mi chiedo allora perché non si ragiona sulle motivazioni per cui in Italia invece non se ne può più, e perché non si ragiona su un tema di fatto. Sì, però mi scusi, posso dire subito una cosa, scusi Stefano, perché noi possiamo ragionare su tutto, possiamo ragionare assolutamente su tutto, però se qualcuno è in grado di dimostrarmi che si può fermare l'immigrazione in Italia, altrimenti dobbiamo parlare di come gestirlo, ed era anche il senso dell'intervista a Cecilia Strada. Come farlo, non cosa, come sta no? facendo il governo, probabilmente male, e sono lì che nascono i problemi, è lì che nascono i problemi. Bravo, io non credo che gli italiani siano razzisti, non so come la pensa Cecilia Strada, mi faccia finire, però credo che il problema nasca nel momento in cui noi dimostriamo di non essere in grado agilmente di gestire questa cosa, che è comunque da gestire, da governare, e deve essere per forza la nostra portata, siamo un grande paese. Esattamente, però nella rabbia della gente c'è non capire per quale motivo, no, l'Italia deve essere la pecora nera, l'Italia e la Grecia. Lei mi sa spiegare una cosa, tanto per andare al sodo sodo, perché l'altro ieri una nave croata ha portato e ha sbarcato in Puglia 400 persone quando poteva fare 10 ore di navigazione in più e portarli in Croazia? Perché una nave francese, invece di arrivare a Marsiglia, che saranno una notte di navigazione, li scarica a Mazara del Vallo? Perché una nave inglese, invece di portarseli a Gibilterra? Perché, visto che lei lo sa, me lo dica lei perché? Me lo dica lei perché? Io glielo dico perché. Sì. Perché dato che noi non abbiamo un concetto, il governo italiano, i vari governi che si sono succeduti, sì, non hanno un concetto di Stato italiano, hanno un concetto di un territorio che in qualche modo, in maniera, viene gestito in proprio per conto di altri o che ne so che, e non ha nessun tipo di dignità nel ribellarsi a questo tipo di cose. Non la sto più seguendo, credo, però non ho capito. Credo che sia un disegno di più chi? Generale. Non lo so di chi, non lo dica a me perché io sono un qualunque. Quando al governo c'erano altre forze politiche, come per esempio la Lega, che ha delle posizioni molto nette in tema di immigrazione, queste navi che lei dice giravano al largo, andavano via o arrivavano e c'erano comunque gli sbarchi? Ma vedi, questo è il solito discorso che a me però non interessa. A me interessa il problema. Che me ne non lo so, è lei che ha sollevato questo argomento. O meno, la Lega fa quello che poi dopo i suoi elettori la condanneranno, cioè a me non interessa trovare un colpevole. Io quello che dico è che l'Italia, la gente, io, questo signore che mi sta passando davanti, quell'altro seduto al bar, siamo incazzati perché non perché non riusciamo a gestire gli immigrati, perché li gestiremo anche se non sappiamo con questo passo. E allora perché siete tutti incazzati? Siamo incazzati perché ci troviamo in una situazione passiva in cui tutto decade e cade su di noi, no? Cos'è che cade su di lei, in particolare Stefano da Roma? Le spese, le tasse. Le tasse le pagherebbe lo stesso, anche se non arrivassero gli immigrati. Stia tranquillo, perché anche quando non arrivavano gli immigrati, noi le tasse le siamo sempre stati tra quelli che le pagavano di più nel mondo. A quella signora Strada che diceva che il problema è immigrazione. Ma lasci perdere la Strada, mi dica lei se lei è convinto veramente che smetterebbe di pagare le tasse, no? Tutti quanti ci dicono, in fondo si tratta di 5-6 persone ogni comune, ma venga a Roma, santi Dio, venga nei comuni intorno a Roma. Mi racconti questo. Lei dove sta a Roma? Lei so che vive a Milano. Io vivo a Roma centro, va bene? Mi racconti un attimo vicino al Pantheon, zona meravigliosa. Quindi lei il problema degli immigrati. Stefano, mi faccia interloquire con lei, se no. Stefano, lei vive. È terribile dove sta lei. Lei è un posto. È uno dei posti più belli della terra dove abita lei. Sì, era. Adesso non è ma più. Non credo ci abitino gli immigrati. Mi racconti le periferie di Roma che lei dice sono piene di immigrati e mi faccia qualche esempio. Mi racconti dove è stato recentemente. Le racconto questo. Mia sorella abita a Piazza Bologna. Sì. Io è la zona dove io ho abitato fin da ragazzo perché era la casa dei miei genitori. E lì com'è la situazione? Mi scusi? Com'è lì la situazione? È una semiperiferia borghese, diciamo. No, conosco Piazza Bologna. Che succede lì? Allora, mia sorella è tornata a casa e mi ha detto, Stefano, i bar, i ristoranti, no, i bar, i ristoranti, le strade, le situazioni ormai sono nella maggior parte in mano a persone che non sono italiane. Ma mi guardi, io, vede, è quello che le ho detto un attimino prima all'inizio della telefonata. Nessuno di noi è razzista. E nessuno di noi è cattivo e nessuno di noi ce l'ha con gli immigrati, perché se no rientriamo nello ma perché lo sta dicendo? Scusi, io infatti non ho mica detto nulla. Lo sto dicendo perché sembra che uno sia contrario alla immigrazione tout court. Io non lo posso, io non lo sono e non lo posso essere per il percorso della mia vita. Io dico che è un ma io infatti non ho ancora capito lei a cosa è contrario dopo 8 minuti di telefonata. Io sono contrario a che innanzitutto a pagare le tasse, sono contrario però dobbiamo pagarle. Sono contrario all'arrivo disordinato di centinaia, di migliaia di persone ogni anno, perché poi queste persone non si sa che fanno, non si sa dove vanno, perché non siamo in grado di gestire. Lei però, scusi, dovrebbe essere contrario, come lo sono io, non del fatto che arrivino delle persone, ma del fatto che noi e le autorità e i politici che ci rappresentano non siano in grado di gestire il fenomeno, non che arrivino. E io cosa sto dicendo? Perfetto, allora siamo d'accordo. Sto dicendo che se la gestione delle navi di Triton, sì, come si chiama, che ormai le vanno a prendere a casa per la retorica, no? Se la gestione di Triton ci vede unici insieme a quei disgraziati della Grecia a pagare questa cosa, sì, ne pongo qualche domanda, no? E mi dico, dato che ho una bella età, io mi chiedo e vedo come vanno le cose, poi fra 6 mesi gli italiani, fra 8 mesi gli italiani, fra 10 mesi quell'italiano che prende 300 euro di pensione al mese, ma o 500, sarà ancora lì, Stefano, sarà ancora lì. Grazie, buona serata comunque, grazie. Dura, dura su questi argomenti. Un però po' se li porterà pure lei a casa sua, va bene. Grazie, Paolino Corleone in regia. Citazione, chi è? Giuseppe Dacchieti, questo. Lui me lo porterò dietro stanotte nei miei peggiori incubi. Fausto da Salerno, buonasera. Fausto? Sì, salve. Eccolo, prego, tocca a lei. Salve, grazie. Chiedo scusa, volevo intervenire in trasmissione semplicemente per, sì, confermare e portare una testimonianza, diciamo, la tesi sostenuta dall'ascoltatore, che credo fosse dell'ente protezione degli animali, che parlava dei cinghiali, era della protezione degli animali? Sì, era Carla Rocchi, presidente dell'EMPA, sì. Ah, benissimo, mi trovo assolutamente d'accordo, confermo, sì, le cose che ha detto. Tutto. Vi dico pure che ci sono molte aree italiane, tra cui quella, sì, da cui vi chiamo io, che è il Cilento, in cui è pieno di cinghiali importati, sì, sono cinghiali ungheresi, e tra l'altro però c'è una precisazione da fare: in realtà non vengono importati perché siano cacciati, perché la zona del Parco Nazionale del Cilento è una zona nella quale è vietata la caccia in circa 90 comuni, e i cinghiali non hanno nessun nemico naturale, si riproducono 2 volte all'anno, per cui c'è una crescita esponenziale, e proprio in questi giorni. Ma questo, scusi, mi incuriosisce perché non ho capito, tutti sottolineate che sono cinghiali immigrati dall'Ungheria, eccetera, eccetera. Sì, vengono importati. Ma questo è importante, cambia qualcosa? Perché i cinghiali che c'erano prima in Italia non erano cinghiali da cui bisognava stare a distanza? Erano di razza diversa, erano più piccoli. Un po' più piccoli? Più piccoli e con una minore prolificità, si riproducevano molto di meno. Questo questi cinghiali che sono stati importati, a parte che sono enormi, super, sì, 100 kg, 120 kg, ma si riproducono 2 volte più all'anno con cucciolate di... E invece di i cinghiali italiani cucciole, una volta sola all'anno? I cinghiali italiani erano molto meno prolifici, più piccoli, ma poi, chiedo scusa, forse dico una bagianata, ma potrà confermare se è ancora in ascolto presidente dell'ENPA, una volta quando c'erano i cinghiali c'erano anche i lupi, avevano un nemico naturale i cinghiali. Oggi i cinghiali importanti non hanno nessun nemico naturale nella cosiddetta catena biologica. No, no, è vero, così. Però questo qualcuno vorrebbe anzi reintrodurre anche i lupi, solo che poi, sì, dopo dovremmo difenderci anche dai lupi, e questa è la questione. Guardi che il mondo è pieno di operazioni di questo tipo, sì, in cui gli esseri umani hanno pasticciato con le specie animali, hanno introdotto razze in territori dove non c'erano e si sono sviluppati in maniera abnorme, e sarebbe il caso di smetterla, per, va bene, va bene, la verità. Grazie, visto che lei conferma, no, visto che lei conferma quello che è già stato detto, l'abbiamo già detto. Grazie, buona serata. Yes, I'm gonna be strong. Yes, I'm gonna be strong. Don't wanna make you too comfortable. When every time you're wrong, allora Allora, ne abbiamo parlato molto in questi ultimi giorni della questione delle discoteche. Adesso c'è una proposta che arriva dal vice ministro dell'interno Bubbico, che potrebbe in qualche modo trasformare, anzi avvicinare il tema delle discoteche a quello degli stadi. Le discoteche come stadi, con la polizia che controlla. Non soltanto all'interno con poliziotti in borghese, ma molti, molti agenti all'esterno a controllare proprio l'ingresso, come accade in Spagna, come accade ad Ibiza. Saranno d'accordo i proprietari dei locali? Ne parliamo con Maurizio Pasca, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Locali da Ballo, SILB. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Tanto presidente pure dell'European Nightlife Association. Esatto. Quindi lei è un referente in Europa. È l'associazione europea che raggruppa tutte le associazioni di categoria dei paesi aderenti a Arena. Ma noi in Italia siamo indietro su queste normative, su queste, oppure siamo allineati al resto d'Europa intanto? Ma no, siamo un po' indietro. In Spagna, sì. In Francia e in altri paesi, sinceramente, i controlli sono ben diversi da come avvengono in Italia. Qualche sera fa, sì, uno degli storici buttafuori della Riviera Romagnola, Pucci, ci ha detto che ha lavorato molto anche in Spagna e Ibiza, e lì in effetti ci sono decine, se non centinaia di agenti di fronte alle più grosse discoteche, paragonabili al Cocorico, che fanno controlli a tambur battente, e quindi a tappeto, e quindi è impossibile che entri la droga. È questo che potrebbe essere un modello da fare anche in Italia? Certo, la prevenzione è stata sempre un ottimo deterrente, quindi anch'io vado spesso a Ibiza per incontrare gli imprenditori del luogo, ma anche le stesse istituzioni, gli amministratori, sì, e vedo che funziona ben diversamente da come funziona in Italia. In Italia, quando succede qualche problema nelle discoteche, c'è subito immediatamente una repressione contro chi può svolgere un'attività, insomma, invece di fare prevenzione come avviene negli altri paesi, prevenendo affinché non avvengano fatti. Ma questa prevenzione è una parola che poi bisogna dargli dei contorni, no? Dei contenuti. Ci dica di questi modelli, per esempio la Spagna, questa cosa che dicevamo dei controlli fuori dalla discoteca, è questo che per esempio lei chiede come sindacato dei gestori dei locali? Sì, certamente non bisogna nemmeno generalizzare, perché in Italia ci sono circa 3.000 locali che fanno attività di intrattenimento notturno, che spaziano dal night club a locali lap dance, a locali di liscio, c'è musica, sì, latinoamericana, locali fashion e quant'altro. Beh, questo dovrebbe valere per i locali più grossi, forse. Poi c'è una minima parte di locali che fa la cosiddetta tendenza con musica techno e musica, sì, elettronica, dove naturalmente favoriscono l'ingresso a un pubblico strettamente giovanile, se non giovanissimo. Ecco, però è vero, allora. E quindi lei... quelli sono i locali che dovrebbero essere, che personalmente ritengo, più a rischio e quindi maggiormente, ma non controllati all'interno, ma all'esterno, affinché non entrino sostanze stupefacenti all'interno. Quindi locali, lei dice, perché... dice controlli all'esterno o anche controlli, per esempio, di polizia in borghese dentro i locali potrebbero, certo, essere. Ma io l'ho spiegato già da anni questo, cioè, sì, quando era sottosegretario. L'onorevole Mantovano, che è un mio concittadino, spesso ci incontravamo sul volo per Roma, pugliese, e io sollecitavo appunto la presenza delle forze dell'ordine all'interno dei nostri locali, che perché sarebbe stato un grande deterrente. Però c'è un tema, mi scusi, a questo punto il tema è questo: chi dovrebbe in qualche modo, cioè se voi dovreste pagare anche questi controlli, contribuire, certo, alle, certo, spese, certo, perché, certo, qua c'è un tema, no? La polizia, certo, deve fare già tante cose. A pagare gli straordinari delle forze dell'ordine che vengono a fare servizio all'interno dei nostri locali. Noi paghiamo già gli addetti alla sicurezza. Però mi scusi, gli straordinari in che senso? Cioè, perché pagare gli straordinari cosa vuol dire? Vuol dire una goccia nell'oceano? Se un agente di polizia, un carabiniere piuttosto che uno della guardia di finanza fa il suo normale servizio durante il giorno, magari può succedere che la notte lo mandano per fare degli straordinari all'interno dei nostri locali. Però chiedete alla polizia di fare degli straordinari di default? Che significa, scusate? No, cioè, sono io che non capisco. Lei dice paghiamo gli straordinari ai poliziotti, io gli sto dicendo... Non gli straordinari, sì, intendiamoci, cioè le ore che vengono ad impiegare all'interno dei, ecco, nostri locali è giusto che vengano retribuiti allo Stato. Cioè diventerebbe una sorta di privatizzazione di un servizio di polizia. Cioè la polizia è prevista all'interno degli stadi, ma anche, sì, cioè, dei grandi concerti, sì, Anche ai teatri è prevista la presenza delle forze dell'ordine, ma noi già paghiamo i vigili del fuoco per i locali con capienza superiore ai 1500 posti, okay. Che è praticamente bisogna avere una squadra dei vigili del fuoco, già paghiamo i vigili del fuoco, perché non potremmo pagare anche le forze dell'ordine impiegate all'interno del credo nostro che locali, non, si, no? Non si opporrebbe nessuno se diciamo la quota pagata da voi gestori dei locali sia sufficiente a fosse sufficiente a diciamo a tenere in piedi il servizio, perché credo che sia certo. Un punto importante. La polizia oggi ha molti compiti, deve fare però molte cose, tirata in ballo in più ponti, quindi sì. Però mi scusi un attimo, ecco, io una cosa che vorrei evidenziare è la forma di abusivismo che poi c'è nel settore dell'intrattenimento notturno. Tenga conto che il mercato legale dell'intrattenimento notturno in Italia vale circa 1 miliardo di euro. Sì. Parallelamente c'è un mercato completamente abusivo che vale altrettanto 1 miliardo di euro. Adesso il ministro Alfano ha mandato una direttiva a tutti quante le questure e i prefetti per controllare tutte le discoteche italiane per capienza e orari di chiusura. E io vorrei capire, cioè, è tutto il settore dell'intrattenimento notturno abusivo, perché non viene mai controllato per far emergere tutto quel sommerso che c'è, che tra l'altro oltre a creare una concorrenza leale nei confronti di chi svolge l'attività regolarmente autorizzato, cioè, crea anche un grosso danno all'erario perché non pagano non pagano nella SIAE, non pagano le tasse, non pagano nulla, ecco. E quello viene totalmente trascurato. Siccome la discoteca è regolarmente censita presso le camere di commercio, perché poi è dovuta a determinate regole e quindi è identificata come discoteca, quindi si controlla solo la discoteca regolarmente autorizzata. Invece quelli illegali non vengono mai controllati. Ecco, questa è una cosa che ci dispiace non poco. Ecco. Vabbè, questo mi sembra. Se regole ci devono essere, devono essere uguali per tutti. Senta, però una cosa gliela voglio chiedere, lo ha detto anche lei poco fa, insomma, ci sono delle discoteche che sono costruite proprio, saranno una minoranza, una parte, no? In modo tale che non si va lì tanto per ballare o divertirsi, ma proprio per sballarsi, musica molto alta, spazi costruiti in un certo modo, luci fortissime, su questo va bene così o bisognerebbe cambiare qualcosa secondo lei? Ma guardi, se dovessi immaginare che in un locale dove fanno la tendenza, dove viene seguita musica techno o elettronica con grandi DJ internazionali, che il loro cachet va intorno ai 100.000 euro, 100, 120, 80.000 euro, insomma, quindi non poco, e dove c'è una grande affluenza di pubblico di circa 1.500, 2.000, 3.000 persone, tutti i 2.000 e 3.000 persone dovessero fare uso di sostanze stupefacenti, allora a questo punto direi davvero chiudiamo tutte le discoteche, insomma. Ma sappiamo che non è perfettamente così, c'è una piccola parte, purtroppo. Poi il problema della droga non va ricercato all'interno della discoteca, mi scusi, ma va ricercato altrove. Bisogna capire il perché il ragazzo fa uso di sostanze stupefacenti, bisogna poi capire il perché un ragazzo di 14-15 anni alle 4 o alle 5 del mattino è ancora fuori di casa per intrattenimento notturno invece di essere a casa con la sua famiglia. E queste sono le domande che io mi chiedo. Va bene, dobbiamo fermarci. Grazie a Maurizio Pasca dell'Associazione Italiana Locali da Ballo. La proposta è questa, insomma, fare più controlli fuori dai locali coinvolte le forze dell'ordine e la polizia, i gestori delle discoteche sono disposti a pagare di tasca loro. Ci fermiamo un attimo. Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri. Il Falco e il Gabbiano si sdoppia dalle 15 alle 16 e dalle 22 alle 23. Le storie più emozionanti, quelle che avete scelto voi. Un mese da passare assieme, un colpo d'ala lungo quanto un'estate. Storie di vite straordinarie. Il Falco e il Gabbiano, dalle 15 alle 16, dalle 22 alle 23. Naturalmente su Radio 24. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo, buonasera da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, abbiamo appena sentito l'intervista con Maurizio Pasca sul tema delle discoteche. Adesso vediamo invece di cosa volete parlare voi. Andiamo con Fulvio che chiama da Ancona. Buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io volevo dire, sì, come prima ho inteso un discorso su la carità cristiana della Chiesa, sì, chiamiamola così, io non sono affatto d'accordo. Non sono d'accordo perché? Perché la carità che fa la Chiesa non la fa la Chiesa, la facciamo noi, perché i soldi li prendono da noi. Perché come diceva la signorina, o la signora, non so chi era, Cecilia Strada, sì. Sì. Io sto in Ancona, abito in Ancona, vicino a Loreto. Sa dove è Loreto, sì? Sì, più o meno, ma anche se sì, non lo sapessi. Non fa niente. Non fa niente. Lei forse non ha visto mai il tesoro di Loreto. No. È una cosa che non ci si crede. Paolo Corleone, sì, regia, perché dire, di quelle zone. Scusi, sì. Finisco. Io non ho mai inteso dire il Vaticano ha venduto, che so, una corona d'oro con diamante, eccetera, eccetera, e ha aperto due pozzi in Africa. Mai. Non hanno venduto mai niente, non hanno donato mai niente. E la caricatura che fanno loro è molto pelosa, perché prendono i soldi solo da noi. E per quanto riguarda, ho inteso le ultime parole della trasmissione prima, io ho 14 anni, andavo anch'io fuori di casa, andavo a ballare, andavo a Rimini, andavo a Riccione, ad Ancona. Però quello che succede oggi, quella volta non succedeva. Andavo a ballare e basta. Perciò non è il fatto dei 14 anni o meno, bisogna vedere come la pensi. Va bene, Fulvio, questo grazie. È così, sì. Eh? Sì, sì. Però per quanto riguarda la carità cristiana non ci credo. Ho capito, ho capito. Beh, insomma, è vero che la Chiesa utilizza anche i soldi che gli diamo noi, che li dà chi glieli dà, gli 8 per 1000, eccetera, eccetera. E quindi lei dice una carità così, insomma. Ma perché anche Emergency utilizza i soldi che gli danno i sottoscrittori. Da questo punto di vista siamo sullo stesso livello, anche se parliamo di due cose un po' diverse. Mario da Siena, buonasera. Buonasera. Prego. Grazie di averci richiamato e di dare la possibilità di correggere insieme a alcune cose giuste delle grassissime cavolate che ha detto la Presidente dell'Ente di Protezione Selvaggina. Le cose che ha detto, e ha ragione, che l'introduzione di animali è spesso fatta in ambienti che non sono in grado più di recepire gli animali, no? Sì. E quindi si creano queste situazioni di sovrappopolazione che poi creano dei danni enormi. E quindi su questa ragione, quando dice di rivolgersi agli esperti, le volevo dire che le cavolate che fanno gli esperti sono molto più grandi di quelle che fanno i non esperti, crocetta di turno. Le faccio un esempio. Da noi degli esperti intelligentissimi hanno stabilito, come ho sentito prima in trasmissione dire, sì, che con il lupo al vertice della catena alimentare si riducono i cinghiali caprioli che fanno in Toscana dei danni enormi sia sulle colture intensive, soprattutto sulla vigna. Esattamente il contrario è successo, il lupo sta facendo altrettanti danni, anche più gravi. Quando dice ci dovremmo difendere dai lupi, lei ha detto prima, no, sì, ci dobbiamo dai lupi. Ma perché il lupo va a scorazzare nei campi, ma lei è un agricoltore, anche lei. Io perché sono un agricoltore ed un agronomo e un allevatore di pianina allo Stato Prado. Sì, però sentite cosa ha detto la Rocchi, dice tanto poi vi rimborsano quando fanno i danni ai caprioli. Questa è la cavolata più grossa che ha detto. Credo anch'io. Questi rimborsi, sì, che vengono qualche volta faticosamente, lei di pensare a me dal 18 di aprile al 6 di maggio i lupi hanno mangiato una vacca e tre vitelli pianini. Per accedere al rimborso devo portare il vitello morto, cioè il pezzo di rachide, di spina dorsale, di testa che rimane. Ma detta da un esperto, il professor Apolloni, in mezz'ora i lupi fanno sparire tutto, quindi io non ritrovo mai i pezzi del vitello, quindi non avrò mai il rimborso perché non c'è nessuno che certifica che c'è stato un danno dal lupo. È una cosa allucinante, cioè si continua a raccontare delle favole sui rimborsi. A noi abbiamo distrutto e chiuso nel 2013, ciò per chiunque lo voglia, tutti i dati, sì, un allevamento di pecore nella nostra azienda, perché 70 pecore in 4 assalti l'hanno fatte fuori. Figurati il lupo. Non ma quindi mi dica una cosa, un centesimo, ha capito questo, alla Rocchi che chiacchiera, venga a vedere, non abbiamo preso non un euro, neanche un centesimo. Mi dica una cosa, Mario, mi dica una cosa, ma quindi adesso io non so se nella sua zona c'è un'emergenza cinghiali, se c'è un piano di abbattimento. Ma c'è tutta la Toscana e c'è tutta l'Umbria. Ma se c'è solo, nel senso riconosciuta anche dalla regione, in Sicilia è stato votato questo piano di abbattimenti dei cinghiali, lei sarebbe favorevole? L'unica possibilità per limitare i danni da selvatici che sono, come ha detto invece l'unica cosa che ha detto giusta la Rocchi, proliferati in terreni che non erano più a loro disposizione. che ci abbiamo messo tanto per fare la Toscana così, non pensiamo poi pensare di darla in mano ai lupi, ai cinghiali, ai cosi, prevedendo che gli esperti, e chiudo, cerco di essere veloce, una cosa, che il lupo poi fa una selezione, così la faremmo noi, e il lupo lo fa con lo stomaco, il lupo ha fame, mangia le prede più facili e mano a mano sale la catena alimentare, ma non è che fa la regolamentazione decidiale, prima mangia gli agnelli, le pecore, le lepri e tutti gli animali domestici piccoli, le capre e compagnia bella, e poi dopo forse corre dietro ai cinghiali, perché i cinghiali menano. Ma lei che è pratico, nei boschi delle vostre zone c'è, sì, adesso ce ne sono troppi forse di lupi e di cinghiali? Siamo in un numero incredibile, perché con dica. No, le chiedevo se è cambiato molto negli ultimi anni, sì, perché si era parlato di boschi spopolati, che è non c'era più. È cambiato moltissimo negli ultimi anni, perché è vero quello che dicono, che ci sono delle razze che fanno plurifa, sono stati introdotti apposta per i cacciatori, è vero quello che diceva la Rocchi? Sì, in parte no, questo rimpallo di responsabilità di amministrazione che dà retta una volta a uno, una volta all'altro. Però no, lei che non so quanti anni ha Mario, ma 68, 68. Quindi forse qualcosa si ricorda anche di qualche anno fa. È vero che questi cinghiali sono più grossi e non sono come erano i cinghiali nostrani? È vero, è anche vero che per esempio io sto a San Casciano dei Bagni, e una zona stupenda, 35 anni fa non c'erano i cinghiali, oggi ce ne sono, che se viene una passeggiata uno a fare una sera si incontrano per strada molto più di tutti gli altri animali. Si ricordi che noi abbiamo in Toscana, ma non solo in Umbria, morti per motociclisti in genere, ma anche automobilisti, addosso a cinghiali, a daini, a caprioli, e ce ne sono molti. Qui da noi ce n'è stata una 15 giorni fa a Cortona, voglio dire, anche molto piccolo. Il problema è che il numero è assolutamente insostenibile. Io poi volevo dire una cosa, noi non siamo contro, io sono uno che vive in campagna per tutta la mattina, ma io voglio bene, faccio l'allevatore, voglio bene agli animali, voglio bene anche al lupo e al cinghiale, ma quando è che non gli voglio più bene? Quando devo decidere se vive lui o vivo io, punto, voglio dire, è chiaro che io scelgo. Mi sembra chiarissimo, Mario, mi sembra chiarissimo. Grazie, buona serata. E questa è la cosa, sì, che domando sempre ai politici, che cosa fareste voi, ma non mi rispondono mai. Grazie, buona serata. Titoli da 7. Migranti e accoglienza, dai vescovi nuove critiche a Salvini e Grillo e attacchi al governo. È del tutto assente, dice il segretario della CEI, Monsignor Galatino. Alle accuse risponde il vice segretario del PD Serracchiani, parole ingenerose. Stiamo facendo molto, ma non possiamo risolvere da soli le emergenze di un intero continente. E sono emergenze che continuano, 50 dispersi al largo della Libia tra Reggio Calabria e Pozzallo, sbarcati 600 migranti, anche il fronte greco è molto molto caldo, l'isola di Kos davanti alle coste turche invasa da 7.000 profughi siriani e afghani, il governo di Atene impreparato invia forze di polizia per sostenere le autorità locali. Yuan cinese, la seconda svalutazione in 24 ore, condizione spaventa le borse, listini in Asia, Europa chiudono in netto calo, Milano a meno 2,96%, peggio vanno Francoforte, Parigi e Londra. Il governo di Pechino rassicura, la nostra valuta si stabilizzerà, il fondo monetario plaude alla politica monetaria della Cina, il mercato interno si rivitalizzerà. Chiuso il memorandum tra Atene e Europa, Bruxelles afferma dettagli chiariti, il testo è al vaglio delle cancellerie. Tsipras si dice fiducioso, ma in una telefonata la Merkel gli esprime dubbi e propone un prestito ponte per il pagamento delle scadenze più immediate e altro tempo per discutere meglio il piano. Il caso Electrolux, fabbrica in crisi ma in ripresa, così per far fronte alle commesse si lavorerà anche a Ferragosto. 40 lavoratori su 1.100 hanno detto sì alla proposta dell'azienda, il sindacato attacca, è una forzatura, i dirigenti hanno ignorato il no della RSU. E in Calabria un nubifragio devasta la costa ionica, Corigliano e Rossano esondano i torrenti, case, strade, ferrovie allagate, auto trascinate via, famiglie e turisti evacuati, paesi senza elettricità. I sindaci invocano interventi urgenti del governo e il presidente della regione chiede lo stato di calamità naturale. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. Andiamo con i vostri interventi e abbiamo Sandro che ci chiama da Modena. Buonasera, Sandro. Buonasera. Prego. Io volevo intervenire perché mi balena in testa una certa idea. Sì. Per me le discoteche andrebbero chiuse tutte, specialmente quelle diciamo grosse, quelle in cui girano molti affari. Perché? Sente come perché glielo dico, triste. Io faccio una semplice operazione, secondo me, visto che sì, la malavita organizzata diciamo ha dei proventi soprattutto dalla droga, questo è risaputo. Beh, certo, e quindi credo che quello sia una buona piazza per lo spaccio degli stupefacenti, e quindi per me le discoteche sono in mano alla malavita organizzata, quindi andrebbero chiuse tutte. Sì, però scusi, lei lo dice così per dire, come facciamo? Così per dire, io infatti le indagini non le faccio io, non è il mio mestiere, però bisognerebbe che facessero delle indagini in quel senso lì. Guardi, aiutatemi. Il questore Paolo Corleoni interviene così a gamba tesa. Guardi, il questore di Rimini, non so se la penserà come lei, però ha chiuso il cocorico. Evidentemente hanno in mano qualche cosa, non lo so se ci sono delle inchieste da questo punto di vista, non lo so veramente, può darsi, però certo, detta così mi sembra un po' come fai a dire che tutte le discoteche sono in mano alla malavita organizzata? Non è no, possibile, quelle, non si diciamo, può, non di si un può certo dire livello, questo. Quelle grosse. Ma no, ma non è così, non no, sicuramente è chiaro che non è dimostrabile, perché sennò li avrebbero già messi tutti in galera. Quindi? E quindi io rimango delle mie idee. Che le chiuderebbe lo stesso, va bene Sandro, ognuno resta dal suo punto di vista. Grazie, buona serata. Buona serata. Chi era? È un altro buonasera messo lì così. No, era Sandro. Allora, dove andiamo a cercare qualcuno che chiama da Bolzano, per esempio? Ada, buonasera. Buonasera, io ritorno sulla faccenda degli immigranti. Sì. E mi domando per quale ragione, per esempio, da tutti i capoccioni che partendo dalla Siria, Gheddafi ormai non c'è più, eccetera, sono spariti tutti, cioè questa povera gente è rimasta senza. E questi si sono intascati tanti di quei soldi perché l'Africa è ricchissima, lo sappiamo tutti. E questi qua non vanno in paesi vicini senza venire fino in Inghilterra, per dire, non vanno in Kuwait oppure in Arabia Saudita, lì certamente non li prendono. Beh, insomma, gente. Guardi che vanno anche nei paesi lì vicino, perché noi abbiamo i nostri problemi di profughi, ma nei paesi limitrofi, in Giordania, e adesso io non so, in Turchia ci sono milioni di profughi. Comunque la sì, gente che comandava è sparita completamente, non si sente più parlare. Dove sono finiti? Quale gente, scusi, chi? Per esempio quello della Siria, com'è che si chiamava? Oppure anche della Tunisia, non hanno più nessun controllo, esiste qualcosa di strano che tutta questa gente scappi in questo modo? Questo mi meraviglia molto, perché beh, come ci dico, sono l'Africa, paesi fuori dal controllo, paesi con governi che non ci sono messi in discussione, ecco, i capoccioni che, cioè i re, i vari che comandavano, dove sono finiti tutti quanti? Sono tutti spariti. Va bene, Ada, Gheddafi, sì, che è stato ucciso, oppure Saddam Hussein, ma tutti gli altri? Boh. Grazie Ada, buona serata, grazie. Arrivederci, buonasera. Maria Luisa dalla provincia di Rieti, prego. Buonasera. Buonasera. Salve. Oltre, io volevo dire una cosa, oltre ai lupi e ai cinghiali, ci sono pure le istrici che fanno un sacco di danni. Che danni fanno? Le istrici quali sono? Quelle con le spine? Quelle spinose, le chiamano le spinose, che tutti dicono che sono pure buone da mangiare. Però lei l'ha mai assaggiata? Lei l'ha mai mangiata un'istrice? Io no, aspetto qualcuno che se le venga a prendere e me ne offra un pezzettino. Ma perché ma lei è circondata dalle istrici nella sua zona? Mi fanno, c'ho un piccolo terreno, mi fanno un sacco di danni, mi buttano per aria tutti i bulbi, fanno dei tunnel infiniti, nessuno viene a cacciarle perché sono specie protette, quindi ce n'è una cartata e vanno avanti come vogliono. Quindi la provincia non rimborsa niente. Abbiamo anche il problema delle istrici. Vedi, perché poi la provincia non la rimborsa niente. No, ti dicono che loro solo se danneggiano le viti e gli olivi, ma loro scavano intorno alle radici, fanno dei grossi buchi. Ma lei sul suo terreno che cosa ha? Bulbi, quindi cosa fa? Leva, coltiva fiori? C'ho pure un pezzetto di giardino, piuttosto bello. Ma lei coltiva fiori? Cosa fa? Lo fa di lavoro o è una passione il giardino? No, non è un lavoro, è una passione. Però non importa la passione o il lavoro. Mi buttano per aria il giardino, che poi non li mangiano i bulbi. La maggior parte li cacciano fuori e basta per divertirsi. Solo sono pazze per gli iris. Gli iris avevo una viola completa, ne avrò avuto i 200, se le sono mangiate tutte. Gli istrici vanno pazzi dell'iris. Grazie, buona serata, sì. Maria Luisa. Voglio bene anche al lupo, al cinghiale, al coso. Ma quando è che non gli voglio più bene? Quando devo decidere se vive lui o vivo io? Si può fare. L'attualità, anche d'estate. Voglio vivere così, con il sole in fronte, e felice canto, beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Ah, si può fare storie di gente che a un certo punto della propria vita ha deciso: voglio vivere così. Ha lavorato in grandi aziende italiane, gli hanno chiesto anche di andare a lavorare all'estero, in America. Per tutta risposta ha deciso di investire i suoi risparmi guardando all'indietro, investendo i risparmi nel mulino che era stato del nonno, mulino che è diventato il suo lavoro. Piacere di conoscere Amedeo Castelli, buonasera. Salve, buonasera. Ex dirigente di alcune... No, dirigente, diciamo, dirigente. Che ricoprivo un incarico abbastanza importante. Ma adesso non fare il modesto. No, diciamo la verità. Mi avevano scritto così, certo, in redazione. Ho delle belle prospettive di carriera, perché... Quanti anni hai adesso, Amedeo? 43-44 dicembre. Quanti anni fa hai smesso di lavorare in queste aziende? Ho smesso nel 2012, quando ho dato l'aspettativa poi di licenziamento, perché... 3 anni fa. Esatto, a dicembre fanno 3 anni che ho rimesso in moto il mulino. No. Comunque, 2 aziende importanti, possiamo dire anche noi? Sì, no, non li diciamo. Non li diciamo. Diciamo che un'azienda leader nel pellame, sì. Italia nel mondo, ma sì. Anche automotive, infatti ho impiegato nel reparto automotive, diciamo. Ho proprio okay. Un'azienda marchigiana, tra l'altro. Adesso sei nel mulino, in questo momento, no? Sì. Esattamente. Qui mi sono affacciato dalla finestra. Bello, cosa si vede? Si vede il torrente chiaro, praticamente lì dove sono abbarbicato, questo borgo che dà proprio il nome a questa via famosa qui ad Ascoli Piceno, perché è proprio Borgo Chiaro, detta anche Santa Chiara. Okay. Una storica viuzza che porta a tutte le valli. Ma sei in mezzo agli alberi, sei in mezzo al verde o ci sono delle case? Sì. È caseggiato, sta proprio prospiciante proprio sul fiume, sul torrente, quindi è tutto, cioè una specie di piccolo paradiso, una specie di forneo ai confini con la città. Non è che avete problemi di cinghiali anche lì, Amedeo? Hai sentito che... Ma la campo penso che sia un problema di tutto l'Appennino, nel senso che i cinghiali stanno un po', si stanno riappropriando. Prima c'erano, però erano controllati, perché la montagna magari era molto più controllata da un sistema di vita, una società molto più rurale, quindi stavano più attenti. Mo' che le campagne sono un po' abbandonate, gli istici cinghiali fanno un po' man bassa di quei poveracci che ancora, sì. Poveretti, che cercano di coltivare la terra. Ne abbiamo sentito risorsa, qualcuno al telefono, sì, è un lavoro infame, capito, perché no, devi lottare. La signora che coltiva bulbi per passione, però magari chi ha investito magari parecchi danari, sì, per comprare la semina, poi... Ha investito proprio con i mezzi, trattori. Poi arriva un capriolo, un cinghiale, butta tutto all'aria. No, perché poi è dobbiamo campare tutti, però voglio dire, nel senso che capisco che il problema è vero, anch'io che sto cercando di ricreare una filiera corta di grani antichi, appunto inerente al mulino, sì. L'anno scorso la produzione di mais autoctono praticamente ho raccolto un quinto. E se non mi sbrigavo a raccoglierlo a mano, nemmeno quello. Oggi è il 12 agosto, sei al mulino, quindi vacanze poche. No, ne facevi più prima ferie, quando lavoravi. Sì, avevo messo il cartello chiuso per ferie e poi l'ho levato. Ah, l'avevi già preparato il cartello? Sì, perché volevo fare qualche giorno, poi siccome qui è un po' tutto manuale. Ma perché insomma, tu lì poi... vendi anche al dettaglio questa farina, oltre che... Sì, la produciamo lì al mulino, praticamente una pietra, palmenti, lì attaccato c'è un negozietto che ho adibito a negozio. Veramente mia nonna lì era il magazzino barra rivendita sementi mangimi, perché prima questi mulini a pietra sì. erano legati a una società che era pressoché rurale, cioè... Quando alle ciance, prima dell'avvento industriale, la nostra in Italia era una società strettamente rurale, quindi la campagna, il mondo, diciamo, le nostre famiglie sono state tutte famiglie cresciute e vissute in una società radicata nella, diciamo, con la terra, insomma. Con il vabbè, sì, questa terra. È la storia dell'Italia, ma i tuoi nonni sono ancora vivi? No. No, quindi non hanno potuto, diciamo, rallegrarsi di questa, di questa tua scelta. Tu sei un po' il Banderas delle Marche? Perché la storia è quella. Banderas, lo vedo abbastanza riposato, tranquillo. Tu dici che devi fare un mazzo così, altro che Banderas. Lo vedo giocare sempre con sta gallinella. Ma... A che ora inizia il lavoro al mulino? Il lavoro inizia presto e finisce tardi, però diciamo che questo è un mestiere, un bel mestiere, alla fine, un bel mestiere, perché come tutti magari lavori in cui tu metti la passione, perché alla fine è così. Certo. Sei felice di quello che stai facendo adesso? Sì, assolutamente, nessun rimpianto. Economico magari sì, però... Guadagnavi di più prima quando lavoravi in queste aziende? Sì. No, diciamo che poi, ripeto, questo il mulino prima quindi faceva quasi esclusivamente conto terzi, quindi prendeva, lavorava sì. il grano per macinare il grano. Diciamo ecco appunto, toglimi una curiosità, ma a parte che tipo di farine produci, perché so che sono farine molto particolari... Alla fine, cioè... È il sistema proprio di macinazione che è diverso, differente da quello diciamo industriale, chiamiamolo sì. così. Mentre il chicco qui viene sgretolato, cioè la macina che le macine mentre viene in fila tra le due pietre, sì. una gira, quella sopra gira e quella sotto sta ferma, con un praticamente si sfiora, la macina sopra sfiora l'altra, quindi il chicco di grano quando passa dentro la macina. E immagina il biscotto proprio di Banderas, la macina, ecco, di quella sì, esatto. famosa ditta per cui lui fa la pubblicità. Perché il chicco passa all'interno del foro della macina, si va a infilare tra quella stessa sopra che gira e quella sotto che sta ferma, la fessura, praticamente le due pietre si sfiorano. Oddio, mi sto un po' perdendo, insomma. Va bene, si sgretola, si sgretola. Lo schiacciamo questo chicco. Ed è una cosa diversa rispetto a quello che avviene esatto, nella cosa industriale. Diciamo, nel cilindro, nel accendo il chicco viene un po' spellato, consumato. Capito? Viene, diciamo, e questa cosa diciamo banale. Riceve un apprezzamento particolare, è una farina più buona, no, più devo dire che, rispetto cioè, a quella industriale. I miei clienti sono veramente tutti estasiati perché... Ma chi sono? Fornai della zona? Quasi esclusivamente privati. Semplici, però alcuni diversi. E tu comunque ci stai dentro economicamente, cioè nel senso sono privati però sono tanti. Galleggio, sappi che io non, da 3 anni non c'è un euro, se c'è un euro lo metto qui, cioè per il furgone, per ricomprare il grano, la bolletta. Cioè ma cos'è, una missione per te? O vabbè, io ripercorrere un po' i passi dei miei nonni era un po' quasi una sfida. Ho sempre cullato da quando ero bambino, proprio. Io ho sempre visto i miei nonni, i miei genitori, insomma, la mia famiglia, cioè persone delle statue, cioè... Da seguire, cioè da imitare. Quindi da hai voluto proprio intraprendere quasi una sfida. Sì, però ti voglio chiedere questo: aggiunto a questo punto, sono già qualche anno che hai fatto questa scelta e hai deciso di vivere così, appunto. Pensi che questa attività abbia un futuro? Oppure più in generale, voglio dire, oltre che la tua volontà e la tua voglia di andare controcorrente, c'è un futuro in tutto questo? Allora, sicuramente è un mestiere che ti dà da mangiare. Diciamo tralasciando gli studi di settore perché il sistema economico fiscale un po' mi sono reso conto che qui in Italia siamo veramente messi decisamente male per quanto riguarda le imprese, soprattutto le piccole le imprese artigiane come la mia, cioè che praticamente ti studiano a tavolino con dei sistemi, con dei programmi dove ti fanno degli studi appunto di settore che ti considerano come appunto Banderas, sì, invece la realtà immaginano però, cose che voi esatto, umani non esatto. avete mai visto però secondo me ci si sopravvive se sei una persona onesta, se fa il lavoro fatto bene, l'artigiano alla fin fine campa perché è un mestiere non mi sono inventato niente, quello che ho fatto io oggi, se fosse 60 l'avesse fatto qualcun altro 60 anni fa non avrebbe fatto, è stato nessun clamore, capito? Perché era proprio, cioè il mulino prima ce ne stavamo tanti. oggigiorno sembra quasi una cosa un po' strana, perché appunto la tecnologia, ci siamo un po' staccati dal mondo reale, cioè dal dove vengono fatte e come vengono fatte le cose. Poi ci sono quelli come te che ci riattaccano a tutto questo e quindi noi anche per questo ti ringraziamo, e io ti ringrazio soprattutto per essere stato con noi, Amedeo Castelli. È stato tutto mio, è stato veramente in bocca al lupo. Crepi e buona serata, grazie a tutti. Per il tuo mulino, il Banderas delle Marche. Salve. Chiudiamo con un ascoltatore. Abbiamo il tempo, sì, Alessandro da Milano. Buonasera. Buonasera Maurizi. Io volevo dire per la gara, così per la cosa, per il gioco, fine bene, ma anche una cosina riguardo dell'immigrazione per esperienza personale. Forse è più lunga quella della bugia fine bene, quindi le dico su due piedi quella dell'immigrazione. Mia moglie è d'origine straniera, suo cuginetto, perché quando l'ho visto io 20 anni fa era un bambino, è cresciuto in un paese, Eritrea, ha i problemi che ha lei, che è del settore comunque, che è un giornalista, lo sa, non sto a ripeterlo per non farvi perdere tempo, lo può dire meglio lei. Fatto sta che ha fatto il suo viaggio, è riuscito ad arrivare, è andato in Danimarca. Okay. Perché è un paese civile, perché ha un tipo di accoglienza, quindi è un problema che tutti ne parlano, si riempiono la bocca. Il clandestino arriva con l'autobus e col visto turistico, con l'aereo e col visto turistico, sta qui, cerca di trovarsi un lavoro se vuole integrarsi, se no fa il delinquente. Ma come lo può fare l'italiano, lo può fare quello di San Marino o persino la città del Vaticano, ci sono stati delinquenti, ma è tanto per essere ecumenico. E qui chiudo, bugia fin di bene. Benissimo. Estate 2014, dopo una botta terribile delle tasse, senza figli io e mia moglie decidiamo di prenderci una botta di vita. Festival latinoamericano a Tassago, una tradizione che quest'anno non c'è più, peccato. Ci presentiamo alle casse, guardano e la cassiera, guardando mia moglie, le ripeto, mia moglie è africana, fa: ma la signora è latinoamericana? Io guardo mia moglie, guardo la cassiera e dico: sì, bene, all'ingresso gratuito. È andata, mia moglie ha riso dalla cassa fino al controllo biglietti. Stavo quasi per prendere la calcina e sedere, ti prego, abbi pazienza, io sono un cultore di Totò, mi sta venendo una mossa alla Totò e io sono la vergogna della Padania, perché sono biondo, coi baffi, chiaro, di carnagione, sposato con una eritrea che sembra una sudamericana. Grazie. Guardi, Alessandro, dobbiamo chiudere. Sono caffè latte, ma caffè latte chiarissimo, pensi un po' al paradosso, perché questo è Mendel. Buonasera e arrivederci. Questo è Mendel, buonasera, arrivederci, è fantastico. Grazie Alessandro, ma soprattutto grazie a tutti voi cari ascoltatori, ci risentiamo domani 18:20:30 con Si può fare. Leonardo Siligati sotto scena, grazie a Gala, Paolo Corleoni in regia, da Alessio Maurizio un abbraccio a tutti, a domani, ciao.